Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma Giuseppe, speriamo che oggi ricominci, perché io mi sono rotto al cazzo qua, senza zanza. Cruciani, Parenzo, non fate un cazzo, fate le vacanze come gli insegnanti, 3 mesi in estate e 1 mese a Natale, andate a lavorare in miniera, coglioni! Cruciani e Parenzo, siete due stronzi! Come cazzo si fa a fare tutte queste vacanze? Non mi passa un cazzo, maledetti. Maledetti che non siete altri. Tornate a lavorare. Cruciani, dimmi la verità, sei andato a sciare con Gentiloni? Ah? Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Vi rendete conto? Mi avete fatto passare delle vacanze di Natale di merda. Ma dove cazzo eravate? Allora, forse a sciare ci è andato Renzi, bisogna ricordare quello che ha chiamato, caro Parenzo. Anche tu sei andato a Cortina, certo. Anche qualche giorno a Cortina. Certamente. Tu sei andato a Cortina. Certamente. Cioè, diciamolo chiaramente. Nulla di male. David Parenzo è andato a Cortina. Ma non hai detto, David Parenzo si è scoperto che è affiliato alla Camorra. Ce lo dici con un... No! Adesso Mauro Damani. Dai che c'è, È andato, sai chi c'è a Cortina? Dici chi c'è? Barilla! E quindi, cioè, e quindi cosa c'era? Qui? Allora, e sai perché? Perché? Sì, sono andato a Cortina. Sì, ho sciato. Sono stato 3 giorni a Cortina in un albergo bellissimo. 3 giorni! Me lo sono pagato io, non rompetemi i coglioni! Chiudiamo qui perché era molto bello questo attacco su Cortina. Ora, 2017, le trasmissioni finiranno alle 18.37, cioè pre-sigla molto bella con queste voci sempre educate, poi, tanto per non perdere mai, no? Sempre più ricche di parolacce e di eloquio sporco, siglettina, musica, un po' di nani, 18.37, tutti a casa, stesso stipendio invariato fino al 2018. Trasmissione che dura 3 minuti e mezzo, la prima trasmissione della radio che dura 3 minuti e mezzo, meraviglioso. Ma perché grazie, sei fissato qua con questa cosa? No, perché basta. Perché ti sei stanco, fissato con questo? Ma come sei stanco? Sentire le voci di sti miserabili da subito. Sta gente, ma è gente che ci insulta perché gente, no, ma è gente che ci insulta perché non ci siamo stati. Come scusa, direbbero i soliti idioti, sono di Fiodena. No, ma dovresti abbracciarli. Fiera, questi qua. Fiodena, l'acronimo. Ma Fiodena. Dovresti abbracciarli. Fiodena, dovresti abbracciarli. Nuovo acronimo della zanzara. Fiodena, Fiodena mignotta proprio. Allora, il primo soggetto della giornata è un signore anonimo che fa, non so nemmeno come si chiama Andreo di nome. Già il fatto uno si chiama Andreo. Ma Andreo dici? No, come cazzo si fa uno a chiamarsi Andreo? No, ma scusa, prima di cioè, tutto possiamo dedicare questa puntata al grande filosofo e sociologo polacco Sigmund Bauman. Ma chi se ne frega? Anzi, vorrei ma quello leggere si occupa, alcuni passaggi ma se ne occupano suoi... altre persone di Bauman, ma no, chi se ne frega? Uno dei, massimi intellettuali contemporanei. Ma chi se ne fotte? Il teorico della città liquida. Ma te cambia qualcosa nella vita che oggi è morto un signore che si chiama Bauman? Cambia qualcosa? Mi dispiace, alla maggior parte delle persone cambia qualcosa? Dovrebbe, no. Dovrebbe perché apre il cervello. Si vive che e si muore. Si vive e si muore. Capito, si vive e si muore. Però scusami, si vive e si non muore. Voglio essere cinico, ma se Dio non voglia un domani dovesse mancare all'affetto dei nostri cari, sì, il signor Donato Davarese barra il signor Mauro D'Amanto, cosa hanno lasciato all'umanità queste due, per carità, straordinarie persone alle quali auguriamo lunghissima vita per tutto il 2017 al massimo. Per tutto il 2017 al massimo. Ma perché? Però no, ma non voglio. Però Bauman cosa ha lasciato in più di loro? Ma chi se ne frega, non lo so, no, ma non mi interessa. All'umanità Bauman avrà, si può dire che non sono uguali? Si può dire no, che Bauman non si può dire. Ha lasciato no, vale qualcosa uno. In più? Uno vale uno. Ma col cavolo. Uno vale uno. Ma a Bauman uno vale uno. Quanto Mauro da Mantova? Assolutamente. Sigmund Bauman va. Assolutamente. Cioè le sue teorie stanno ancora no, palpitando ma non me ne frega dentro niente. Di noi. A me, interessa, a me interessano le foto che ho visto oggi, foto, oddio, immagini, non credo, foto dell'ospedale di Nola. Dell'ospedale di Nola. Ora, è vero che anche al nord gli ospedali non funzionano. Come sai, o comunque quelli pubblici non funzionano, si può anche crepare perché c'è un tizio che ammazza le persone, come sai all'ospedale di Saronno. Dunque, non è che stiamo facendo l'elogio degli ospedali del nord. Io mi sono sempre curato negli ospedali pubblici, quelle poche volte che sono. Allora, io dico, vai in un ospedale, c'è uno che ti può ammazzare perché gli girano i coglioni insieme alla sua amante, eccetera. A Saronno. Vai a Nola, vai a Nola, Nola, Nola, dico Nola. Campania, Nola, e ci sono foto di alcuni signori pazienti curati per terra, sul pavimento, amico mio, sul brutto, pavimento con le flebo. E sai cosa dice uno che si chiama Andreo? Andreo è il Papa direttore. Andreu. No, greco, Andreo greco. È il nome, Andreo De Stefano. Sì. Io ripeto, come cazzo si fa a chiamarsi Andreo? Beh, questo non è il problema suo. Secondo me, perché la madre e il padre, quando l'hanno messo al mondo, pensavano che Andrea fosse femminile. Dice, no, questo è maschio, dobbiamo chiamarlo Andreo. Questo può essere. Non c'è motivo, se no. Errore, scusi, non c'è motivo. Uno perché si chiama Andreo? No, no, osservazione acuta. Non pertinente rispetto a... No, perché adesso non farei il processo al nome di sto signore. Questo signore è sconosciuto ai più, è il direttore dell'ospedale, il quale dice, beh, almeno li abbiamo curati. Cioè, cosa dovevamo fare? No, dovresti andare via, per esempio. Per esempio, dovresti essere preso a calci nel culo. Perché se tu permetti al tuo ospedale di curare i pazienti che arrivano stesi per terra con la flebo stesi per terra come bestie, come animali, certo, devi dimetterti non un secondo dopo, tre giorni prima. Invece questo dice, beh, che dovevamo fare? Si potevano curare anche... Vabbè, sentiamo. Quelle foto sono brutte. Ripeto, tutte le 311 persone che sono venute fra il 7 e l'8 gennaio hanno avuto una risposta assistenziale. Tutti, nessuno è andato via senza risposta assistenziale. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cioè, siccome vengono, sono tanti, li dobbiamo curare pure per terra. No, cercate di risolvere il problema, cercate di non curare le persone che sono sbaccate per terra come fossero in un campeggio estivo di ragazzini di 18 anni. Un signore che è venuto, come è venuto in primo soccorso, ha fatto l'arresto cardiocircolatorio e per cui è stato messo a terra per essere defibrillato. Voi sapete meglio di me che la defibrillazione va fatta su un tavolo rigido, su una parte rigida. Non essendoci barella, hanno preferito metterlo per terra su una coperta per fare la defibrillazione. Ma se non c'è la barella, amico mio, procuratela la barella. È colpa tua se non c'è la barella. Devi andare via se non c'è la barella. Se non ci sono le barelle per quelli che arrivano, sarà colpa sempre degli altri, dei soldi che non arrivano. Ma il primo responsabile sei tu, il direttore sanitario, come diavolo si chiama, il responsabile di quello che... L'assessore alla sanità della regione Campania che dice? Parliamo, non lo so, parliamo di cose un po' più leggere, ti prego. La prima puntata dell'anno, non possiamo iniziare con l'ospedale di Nola, che mi viene una tristezza, oppure la gente, mi viene una tristezza incredibile. E allora, io, se volete dimagrire dopo le vacanze di Natale, dovete seguire i consigli del Divino Terma. No, però stai calmo, ti prego, stai calmo. Allora, vi dovete procurare, assolutamente, un rituale magico collettivo per il dimagrimento. Un rituale magico collettivo per il dimagrimento post-festa. Già le parole rituale, magico, collettivo e dimagrimento sono quattro macro temi che meriterebbero di essere mandati singolarmente, ciascuno a fare il culo. Allora, quattro temi. Vi dovete procurare nell'ordine sale grosso, almeno tre granelli non fino. Lo ripeterò poi questa come cosa. Sale grosso, almeno tre granelli non fino. Beh sì, se è grosso non è fino, chiaramente. Per forza. Almeno tre granelli. Pleonastico. Specchio prensile da tenere in mano. Che vuol dire prensile? Specchio da tenere in mano. Comunque, specchio da tenere in mano. Questa è un'indicazione del divino, eh. Una striscia di stoffa o un fazzoletto bianco da cingere alla fronte. No, roba che ti arresta. No, aspetta, ragazzi. No, allora, se io vedo qualcuno con del sale in mano, lo specchio è una cosa, come minimo chiamo la se sono sul treno chiamo la Polfer, la polizia stradale, la polizia dei treni. Ferroviaria, chiamo qualcuno, dai. Allora, ripeto, procuratevi perché dopo faremo questo rituale, tu devi dimagrire qualcosa, aspetta, non ti preoccupare, faremo sale grosso almeno tre granelli, non fino, chiaramente. Sono le indicazioni del divino, Cioè, vuoi fare in diretta il rituale? Specchio da tenere in mano. L'hanno fatto sulla Rai. l'hanno fatto sulla Rai, l'hanno fatto Monco, in realtà l'ha fatto il servizio pubblico. Vabbè, lo potremmo fare anche noi o no? Sì, no, ha maggior ragione. Certo. Servizio pubblico del signor Campo Dall'Orto, del filosofo Campo Dall'Orto. Servizio ha fatto il rituale magico del Divino Telma con la gente bendata in testa. È tutto finito. La gente bendata. Specchio prensile da tenere in mano, dunque sale grosso, specchio da tenere in mano, una striscia di stoffa, un fazzoletto bianco da cingere alla fronte. Senti, senti. Avvolgete attorno alla fronte la striscia di colore bianco, noi la lasceremo cadere a terra, ma voi avvolgetela attorno alla fronte. Posizionate nel palmo della mano sinistra lo specchio prensile, ruotatelo in senso orario, il vostro senso orario naturalmente, ed arrestatelo. C'è anche un altro. No, su di te non vale. Noi ci fermiamo qui. O ricominciamo da capo o ci fermiamo qui. Ci sono due sensi orari, Divino. Non ce, ce n'è uno solo di senso orario. Infatti, non il mio, infatti ho detto il vostro senso orario. Qual è il vostro senso orario? Naturalmente, io, questo è il mio senso orario. E ovviamente a casa ognuno va, è sempre quello, naturalmente. Ma tu non puoi interferire. Ma mi dia del voi. Sì, non ti diamo del voi perché tu non lo sei. Non ho capito se attraverso questo rituale si riesce a dimagrire la vita. Hai sentito? Si chiama Perego, c'era pure, sì, no? Che cercava, cercava di orchestrare. Sì, di capire come si fa lì. Non so se anche lei ci avesse la fascia bianca, non lo so. Ma eh, che fascia bianca? Lo specchio prensile va posizionato nel palmo della mano sinistra. Ruotatelo in senso orario. Arrestatelo all'altezza del vostro viso. Fissate attentamente lo specchio, guardatevi, ripetendo dopo di noi queste parole. Io sono in verità orribile a vedersi. Ma tu sei orribile a vedersi. Nessuno mi ama perché sono grasso. Nessuno mi ama perché sono grasso. Io aborro il grasso nauseabondo che mi opprime. Ma da questo momento in avanti io uscirò dal tunnel. Mangerò soltanto due volte al giorno. E rivedrò la luce. Deponete al suolo lo specchio. Il sale che era nel palmo della mano destra. Sì, ce l'ho io che passo davanti, che distribuisco il sale, prego. Lanciatelo dinanzi a voi. Ma questo è stato... Voi siete liberi, da questo momento siete liberi. Il rituale è replicabile ad libitum. Ecco. Con questo rituale si dimagrisce in 30 giorni. Ma figurati. Ma ti denuncio per abuso della credibilità popolare. La ma cosa grave sarebbe... No, è molto autobiografico come hai sentito. Cioè, no? Però tutto questo, tutto questo. Prendete lo specchio e dite io sono orribile. È tutto molto autobiografico in verità. Tutto no? Questo sulla televisione pubblica. Sì, ma anche questo. La Rai. Anche questo. La Rai. Chiudiamo qui. Che dai, paghiamo perché... noi. Bello, che paghiamo bella noi. Chiusa, bellissima. Bravo. No, è bella questa chiusa che hai fatto. Lascia così. Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. Ma allora vi devo dire una poesia, ragazzi. Muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. La poetessa proprio. Allora ragazzi, affrontiamo la questione Trump. La questione Trump, importante, molto importante. Tra poco ci sarà la grande inaugurazione della presidenza Trump. Sì. E quest'uomo, pur non aver fatto ancora, non avendo fatto ancora nulla, nessun atto, viene accusato delle peggiori nefandezze. Cioè non ha fatto nessun atto di governo. Non è che ha messo nel recinto gli islamici e li ha bruciati vivi. Per carità di Dio. Non è che ha bloccato le frontiere. Eppure dalle star di Hollywood ai tre tenorini del volo viene considerato una merda umana. Beh, questo è legittimo. Cioè, no, per carità, assolutamente. Legittimo. Cioè, tu prova a immaginare il neo presidente degli Stati Uniti. Il neo presidente degli Stati Uniti, che non è l'ultimo arrivato, è il presidente degli Stati Uniti. Sì. Ti invita a un concerto. Ecco, e tu legittimamente decidi di non andare. Assolutamente. Nel caso del volo, che cosa dicono questi signori? Dicono: no, noi non ci andiamo. Dovresti limitarti a dire questo. No, ci fai il pippone politico. Beh, loro dicono che... Ci dici sei razzista, sei xenofobo. Beh, legittimo. Ma cosa? Ma sei assolutamente razzista. Legittimo. In base cioè, a il volo parlano di razzismo. Ma il signor, il presidente Donald Trump non ha fatto un cazzo fino adesso. Ha vinto le elezioni su una piattaforma razzista. Di idee. Ma che dici? Assolutamente discriminatoria. Ma sei completamente pazzo. A parte che è opinabile. Ma, non, ma opinabile. Dal mio punto di non vista è così. Ovviamente. Senti, certamente questi pensa. Signori qua. Questi signori ha qua. Parlato a un'America bianca, a un'America cristiana, a un'America antimigrante. Ma questo non è quello che lui ha detto. Ma lui ha vinto su questo la campagna elettorale. Ma non dire puttanate. No, su cosa dai. L'ha vinta? Senti... Ah, no, ha parlato a favore di... Non ha detto che vuole espellere dal paese cosa? Tutti i musulmani? Chi? Non vuole far entrare i musulmani? Se uno è musulmano non vuole farlo entrare negli Stati non Uniti? È così. Non è non così. Ha detto questo in campagna ha elettorale? Ha detto tutto il contrario di tutto. Ha detto Hillary Clinton? Ha detto tutto il contrario folli. Di tutto. Sulla base di questo, intellettuali e non, cantanti più o meno bravi. A me ad esempio piace moltissimo il cantante Calcutta. Si può dire ad esempio il signor Calcutta. Calcutta. Sì, non sai niente tu. A me Calcutta vabbè, allora... piace moltissimo. Però il signori volo, i signori volo, se decidono di non andare perché dicono per me quello è un razzista, fanno benissimo a non andare. Rinunciano anche ai soldi, no, rinunciano alla coglioni, popolarità, sono rinunciano dei alla fama di sono cantare. Sono dei coglioncelli, però, come ha detto Sgarbi, hanno... sono dei coglioncelli. Sono tre cazzoni. Sono tre cazzoni. No, semplicemente perché... Limitati a dire di no e non farci il pippone politico sul razzismo perché non sei all'altezza di parlare come di razzismo. Ragazzi, no, il razzismo è una cosa importante. Martin Luther King, un sacco di gente. Non il volo che parlano di razzismo. Dicendo noi siamo. Noi siamo di esempio. Noi siamo di esempio per i giovani, ma sei di esempio chi? Bob Dylan è di esempio per i giovani. Magari anche Dylan. Forse anche una volta il cantante, non il volo, ragazzi. Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Col volo, ma ti può piacere o non piacere? Ti ripeto, a me piace moltissimo. E Calcutta, poi un'altra Meryl Streep. Meryl Streep, una grande attrice. Che ma perché fatto, l'opinione Meryl? Di Meryl Streep sul cinismo, sugli immigrati ma si sa che e su altre cose? Di Hollywood sono sempre ma perché dovrebbe essere più importante per i diritti, l'opinione per la democrazia, di Meryl... per i migranti? Aspetta un attimo. Dunque, questa signora qua viene premiata con una cosa che si chiama Golden Globe. Non so come cazzo si chiama. È abbastanza famoso il Golden Globe. Ah, sì, va benissimo. Invece di essere lì, andare sul palco contenta, sorridente, di parlare di cinema, di cose così, ci deve fare 50 minuti di pippone politico sul cinismo, su Trump. Ma gli attori americani hanno sempre preso parte alla battaglia politica. Gli attori americani sempre. Vuoi ricordare Mel Gibson? Dai, vuoi ricordare quell'uomo antisemita di destra di Mel Gibson che ad esempio ha fatto sempre delle campagne pro aborto, contro il divorzio? Fammi sentire Sgarbone, ti prego, fammi sentire Sgarbone. Come c'è Gibson, ci sono gli attori democratici. Dai. Uguale. Ora, io sono assolutamente certo che loro non potranno esibire nessuna richiesta ufficiale della segreteria di Trump. Non dico di lui. Hanno detto di no a niente. Hanno detto di no a nessuno. Hanno inventato un nemico cattivo, brutto, xenofobo e gli hanno detto noi per te non cantiamo. Noi non cantiamo. La nostra bella voce per te non ci sarà. No, no, no, no, no. Qui, qua, qua. Io sono certo e vi sfido e non vi odio, non ho niente contro voi, ma mi state sui coglioni, mi state sui coglioni, mi sta sui coglioni chi dice no a cazzo. Non perché se fu dovere cantare, ma perché se anche l'avesse chiesto di cantare avrebbe dato la prova di considerarvi. Dovete pensare al... in fondo... ha un atteggiamento di riconoscenza. Una persona che, in fondo, è il presidente degli Stati Uniti, vi chiede di cantare a voi tre pischelli di periferia inventati da Tony Renis. Avete la richiesta del presidente degli Stati Uniti? E dite no, no, noi non cantiamo, non ti diamo la nostra voce, il nostro pensiero, le nostre idee, la nostra anima. No, brutto Trump. È ricco. Antropologicamente diverso, miserabile, ma io sono convinto che non vi abbia detto un cazzo. Che poi spesso si inventano queste cose qua, no? Perché Fateci vedere una prova, fateci vedere un documento, uno scambio di mail, signori del volo. Fateci vedere qualcosa di concreto di questo invito che avete ricevuto dalla Casa Bianca. Magari è vero, non lo mettiamo in dubbio. Fatecelo vedere concretamente, perché spesso sono i manager che si inventano le cose, le campagne, il grande rifiuto. Il grande rifiuto. Ma non, se non vuoi se cantare... Se fosse una campagna di stampa inventata da questi volo sarebbe un'altra patetica. Un'altra è Meryl Streep, che dice, Meryl Streep mi dice, Hollywood è piena di stranieri, se li cacciate via non avete più nulla da vedere. Ma chi li vuole cacciare gli stranieri? Trump non vuole cacciare gli stranieri da Hollywood. No, no. Questi qua dicono, siccome si chiama Meryl Streep ed è una straordinaria attrice, si permette di dire le cazzate più ignominiose, le cazzate più incredibili. Ma lo stesso vale per gli sono attori che puttanate. Sostengono i repubblicani. Ma però. Chi vuole cacciare gli stranieri? Ma che lo stesso dici? Può valere per Schwarzenegger. Ma no, per dire che la parola di un attore può valere ma tanto dai, quanto quella ma chi vuole cacciare gli attori stranieri? Dai, su, è una puttanata. Se uno sta dai. A vedere il programma di Donald Trump, dai. Trova delle cose agghiaccianti dentro. Ma nel cosa programma. C'entra? Magari non lo farà, magari Massimo non lo metterà Padova. In pratica. Fammi sentire Massimo. Apriamo Padova, subito dai. Le gabbie. Massimo, le gabbie, apriamo subito. Massimo. Pronto, ciao, buonasera. Dai, dimmi. Ciao, volevo due parole sull'ospedale di Nola che ormai dimmi. È su tutti i telegiornali. Il ministro manda gli ispettori in ospedale, ma io gli ispettori li manderei al ministero, non in ospedale. Come si può pensare che un ospedale che è lì a offrire un servizio pubblico, la gente si rivolge in ospedale perché ha una necessità, ovviamente non hanno gli strumenti per operare perché non gli vengono forniti, io non ho dubbi che siano stati richiesti, ma gli ispettori devono andare a verificare. Senti, a me non mi interessano queste cose, gli ispettori, contro ispettori, il ministero, la regione, eccetera, sì, eccetera. Ha ragione, so, a me gli aspetti tecnici non me ne frega nulla, devono risolverli loro. Stai zitto un attimo, se c'è un ospedale che ci mostra quelle immagini di gente sbattuta per terra e curata per terra, il direttore sanitario di quell'ospedale va preso a calci nel culo. Questa è una cosa molto semplice, non c'è molto da discutere. Poi le responsabilità, quello, contro. Non mi interessa, se tu sei assistito per terra, e per caso sono uscite quelle foto, sicuramente ce ne saranno altre o ce ne potevano essere altre ieri o l'altro ieri, tu devi essere cacciato a pedate nel culo, basta, molto semplice, non c'è altra cosa. Poi la colpa sarà del ministero, della regione Campania, di quelli, o ci sarà uno scarico di responsabilità, ma tu sei il responsabile di quell'ospedale? In quell'ospedale le persone vengono assistite così, vengono assistite in questo modo, via. Mimmo da Varese, dimmi. Parenzo e Cruciani, buonasera. Dimmi, vai. Mimmo, allora, io l'ospedale di Nola lo conosco perché abitavo vicino. Allora, il direttore sanitario, lui se ne frega, lui è un barone della medicina, se ne frega. Vabbè, amico mio, barone e della poi medicina. Ti dirò anche, sì, sono quelli lì, quelli, c'è la scala sociale giù, purtroppo è quello. Io sono infermiere e lui è il capo, non si può fare niente, ti devi star zitto e basta. E poi ti aggiungo anche un'altra cosa. Che ci aggiungo? Quelle persone lì, quando si vanno ad operare, non se lo fanno giù a Napoli, vengono al nord. Vabbè, quello è un altro discorso, vai. Paola da Milano, no, vai Paola. Stesso, sì, ciao Mimmo, Paola, vai. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera. Arrivo, arrivo. Faccia con comodo, con come radio in diretta, faccia quello che stavi facendo, Paola, scusami. Paola? Sì, pronto? Che stavi facendo, scusami? Oh, pronto? Che facevi? Che fai? No, scusi, ero in ascensore con altre persone. In ascensore? Vabbè, giusto. Sto tornando a casa, abbia pazienza. Sì. Che marito è a casa, suo marito? È una roba velocissima. Ma che hai fatto fino adesso? È a casa, suo marito? Non ancora. Telefoni allora, va? Ma perché sempre questa cosa? Tu pensi che il marito sta scopando con un altro? No, ma no, perché? per carità. Ma scusa. No, ho telefonato a Radio 24 dalla macchina. No, ma telefoni al marito è meglio. Ma no, perché? Perché Parenzo sospetta che suo marito se la sta facendo con un no, altro. No, per carità, dico signora mia, avvisi prima di tornare a casa. Io ma le dico perché solo tu avvisi quando chiami casa tua? Tu avvisi? Ma no, sì, sempre avviso, non si sa mai. Pure tu avvisi allora. Odia le sorprese, anche la signora odia le sorprese. Che tuo marito mi sa che è uno che no, gli piacciono le femmine, no? Bella, si diverte. Tuo marito. Sì, per lui, voglio dire. Questa è buona. Paolo, aspetta un attimo, noi dobbiamo un quarto d'ora perché sai che abbiamo questa cosa di un quarto d'ora che esiste. Solo radio giornale, credo che l'unica trasmissione in Italia, avere un quarto d'ora di 18 minuti. Ottimo radio giornale. Comunque ci sentiamo ci dovrebbe dopo. Essere solo pause in questa trasmissione. Pochissima diretta, solo pause. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. La Zanzara. Stringere i denti e andare avanti! Sì, io per vedo molto negativo. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. Una settimana senza Zanzara non ha senso. E chi non lo dice, o perché non l'ascolta e quindi è un coglione, o perché non accetta l'idea di doversi asservire a qualcosa a cui non può rinunciare. Ecco, questa è la verità. Tutto il resto è fuffa. Ragazzi, non ce la faccio più. Praticamente sto aspettando il 9 gennaio dalla notte di Natale. Dai. 18:34. Esco da lavoro, salto in macchina, accendo la radio, pensando saranno tornati quei due sfaticati. E invece sento una musichetta orrenda. Si può fare, si può fare. Mandatevene a fanculo, io voglio Cruciani e Parenzo. Cialtroni, dove cazzo siete? Calma, non si può andare nemmeno in vacanza, Davide. Oh. Ma che roba è? Ma che scherziamo, non si può 15 andare nelle spa Cortina lussuose, no, come ha fatto Davide. No, lussuosissimo. Ma lussuose, lussuose. Sei stato a Cortina, un posto dove io, francamente, devo dire la verità. Cioè, non penserei male. Con tutto il rispetto per Cortina, durante le vacanze di Natale, pagato tutto fino all'ultimo durante le vacanze di Natale, non metterei piede nemmeno se mi danno i soldi. Ma non per Cortina, meravigliose con delle amiche, le Tofane, bellissime. Al Duca, al rifugio Duca d'Aosta, meraviglioso. Rifugio Duca d'Aosta, stupendo. Bello, guarda, sole, neve, bello. Questi cazzi. Questo pure è vero, questo pure è vero. Il commento allora, di questo. C'è un signore che si chiama Fabrizio Bracconeri. Ma i nani li hai dimenticati. Aspetta. Allora, Fabrizio nani, Bracconeri, come sapete, attore. Attore, una volta attore. Oggi non lo è più. È quello della terza Cila, come ma diavolo si chiama? Già candidato e militante. Siciliano è un attore. Siciliano è un bravo attore. Ma sì, ho capito, ma non è che mai detto, che ne so, Robert De Niro. Cioè, no, ma hai detto siciliano. Siciliano è un bravo attore. Ma sì, vabbè, d'accordo. Mastrandrea è un attore. Ma Gassman, Tognazzi. Vabbè, comunque adesso, Fabrizio Bracconeri, persona simpatica, ragazzi, della terza C. Questo bravo. Fabrizio Bracconeri è stato anche militante, credo, di, come dici tu, Manganelli d'Italia. Lì, Fratelli d'Italia. Sì. Non posso più dirlo perché mi hanno querelato. Ti hanno querelato, sì, la Meloni ti ha querelato perché hai detto Manganelli d'Italia. Tanto non ho un cazzo, cosa me ne frega. No, ma soprattutto la cosa incredibile. Non me ne frega niente. Che quando. Adesso Feltri ancora non è in campo, però. Ma me frega niente. Ma mi invitate per non parlare? Ma non me ne frega niente. Io devo parlare degli immigrati, dei barconi, dell'invasione. Non me ne frega. Ma chi è Bracco? Non me ne frega niente. Vado via, basta. Vado via, guarda. Vabbè, via, Feltri, bravo, perché va via adesso? Non ho capito. Via. Ma perché va via? Vado via. Ma non frega niente. Questo Bracconeri ha scritto su Twitter: vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo, ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni. PD e clandestini, poi la rivolta. Il signor Bracconeri, sentiremo più avanti, se riusciamo a contattarlo, spiegazioni di questo, scritto, no? Di questo programma politico. Sì, programma politico, certo. Che vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo, ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni PD e clandestini, poi la rivolta. Allora, io voglio capire da Bracconeri, poi proviamo a chiamarlo più avanti. Amico mio, se tu, io ti chiamo, tu sei uno, dice, no, Manganelli d'Italia, Fratelli d'Italia, quello che è, scusa, è lapsus, però dico, sei uno tutto d'un pezzo, eccetera, patriota e quello, non è che mi devi dire no, non volevo dirlo, volevo dire un'altra cosa. L'hai scritto. Amico mio, no. Verba volant, scripta manent, come dite voi, no? Va bene ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Milano, andiamo a casa, Raffaele. Andiamo, Milano Raffaele. Abbiamo lavorato anche troppo. Raffaele, vai. Allora io. Oh. Sì. Dai ragazzi, pronto? Forza, Raffaele, dimmi. Ciao. Io volevo testimoniare quello che è accaduto a mio fratello all'ospedale di Nola. Sì. Che è successo a tuo fratello all'ospedale di Nola? Disorganizzato, ovviamente. Vabbè, questo lo si è capito anche da quella foto, non sendo, diciamo, non è, non è una novità. Certo. Allora? C'è da dire che ha un pronto soccorso e abbraccia insomma un bacino di utenza immenso. Sì, questo non è il tribunale del malato, però cosa ci vuoi dire? Non trattasi del tribunale del malato, bensì la zanzara. L'ho portato in pronto soccorso una notte di 3 anni fa, sì, 3 anni perché fa. Aveva dei dolori addominali fortissimi. Vabbè, sì. E la cosa, lui è deceduto adesso, non c'è più. È morto. Ma la cosa che mi fa male, sì, è stato che la diagnosi? Di quella notte, sì, fu una diagnosi per infiammazione. Però professore, scusi, chiami il mio amico Salvo Sottila, mi manda Rai 3, sì, è questo, più utile, francamente. Sì, lei, c'è questa ottima trasmissione, condotta sì, dal signor Sottila, il nostro grande amico. Che salutiamo assolutamente. Lei adesso, io do il numero di cellulare, guardi, chiami. No, Sottile, no, come no? Il numero di Sottile in diretta, che poi gli rompo i coglioni. Ah, anche no, sì, forse gente, questo è esatto. Però chiamate la redazione di Vanda Rai 3, perché chiamate questa trasmissione qui? È impropria. Cioè, allora, Cruciani non ha aspetta. La sensibilità no, per affrontare no, questo è questi temi. Allora, io sono molto sensibile, sono molto vicino a lei, suo fratello è morto, per carità. No, è andato questo. 3 anni fa all'ospedale di Nola e ha avuto per un dolore addominale. Cosa è accaduto che già non sappiamo da quella foto, con i malati stesi per terra con la febbre all'ospedale di Nola, tanto una da farci chiamare? Una banalissima appendicite è stata confusa per infiammazione della cistifelia. Pazzesco. Per cui è lui è morto a causa di questa roba? Successivamente. Allora io dico una cosa, certo, perché ha ragione, dovuto praticare una colostomia e vabbè, adesso noi entriamo in dettaglio. Ha ragione dottor Parenzo in questo caso, ecco, cioè esatto. Esiste una trasmissione rimessa molto in bella piedi, ma adesso non esageriamo, no, rimessa ottima. In piedi dal signor Sottile che si chiama Mi manda Rai 3, esatto. Dove lei può chiamare, se vogliamo diamo anche in diretta il numero del signor Sottile, vogliamo dare il numero di cellulare del signor Sottile, facciamo un piacere. Magari chiamerò anche lì, magari che la sì, chiamerò. No, ma chiami lì la redazione, personaggi straordinari, il danno sicuramente la è rabbia, tutto. La rabbia è sapere, è la mia rabbia ovviamente la nasce dal fatto che una appendicite. Vabbè, ho capito, però amico mio, adesso noi non ci possiamo mettere a discutere adesso una cosa di suo fratello, se era appendicite, la cistifella. Poi per carità è morto. L'ospedale di Nola farebbero bene proprio a chiudere. A me lo dice. Poi dice che sono populista, che sono così, ma uno dopo che vede quelle immagini chiude baracche e burattino, oppure fa una rivoluzione no totale di quell'ospedale lì. No, vabbè, comunque. Mi è capitato Claudio da Lucca, di vai. Quella notte. Che è capitato di più ancora rispetto alla morte di suo fratello? Cosa è capitato? Vedere una persona lasciata morire nel letto dell'ospedale senza ricevere un'assistenza. Allora, non dire? Poteva più respirare, molto probabilmente aveva tanta acqua nel corpo, nessuno gli drenava. Il racconto è pazzesco ed è terribile, però. Questa persona è morta soffocata davanti ai miei occhi e gli occhi 3 anni fa, perché non l'avete denunciata questa roba qui? Era lì nel letto che e poi è morto pure lui. E poi è morto pure lui. Successivamente. Però io dico una cosa, va benissimo. Però adesso noi non possiamo ricevere denunce sull'ospedale di Nola. Per carità, va bene anche questo, però è 3 anni fa. Era solo una testimonianza. Perché ora voglio dire confondere un'infiammazione della cistifelia ho capito, però ripeto non possiamo discutere sulla cistifellea e sulla cosa di suo fratello peraltro morto. No, potremmo anche farlo, forse sì, la trasmissione ma è morto, ne avrebbe però, giovamento ma è morto, capito, il fratello, e che dobbiamo fare? Siamo vicini a lei per tutto quello che è successo. Claudio da Lucca, vai. Claudio, sì, buonasera a tutti, ciao. Dimmi Claudio, ciao. Dimmi. Senti, io parlavo per il discorso di Bocelli, dell'altro trio, che sono anche secondo me innominabili. Devo smettere nominabili di politica. Innominabili chi? Il volo, signori del volo? Il volo, sì, ma presi e messi lì giustamente come avete detto voi, si mettono a fare politica con le canzoni, fra virgolette. Io mi permetto uno può dire di quello, uno, cantare, uno nella vita può fare quello che vuole, anche ha essere ragione, per l'amor di Dio, uno fa e noi che però vuole. Possiamo anche essere liberi, dobbiamo essere liberi di giudicare questi signori. Io li considero 3 coglioni, punto. Per quello ma che perché, dicono, per quello te che hanno detto, per quello che hanno detto. Ma scusa, ma se uno non detto. Vuole cantare no. per Trump, avrà il diritto, perché gli sta sulle scatole il programma del signor Donald Trump, quello dichiarato in campagna elettorale? A parte elettorale, che uno quando diventa il presidente degli Stati Uniti, votato da una maggioranza degli americani. Questi signori del volo sono anche molto ascoltati negli Stati Uniti, sembra, le loro canzoni, per motivi per me imperscrutabili. Però scusami, però ci sono cantanti che ad esempio rifiutano di cantare per Putin. Ma non è un dittatore il signore, ma nemmeno Putin, tra l'altro. Ma il signor Trump non è un cattivo, è un una persona è legittimo. È una persona eletta democraticamente alla presidenza degli Stati Uniti con Berlusconi, ma sono cose, per carità, deprecabili se vuoi dal tuo punto di vista, ma legittimo come obiezione di coscienza. Peraltro, a me l'unica cosa che interessa sapere è di coscienza. Questi qua hanno... Ma che ne sanno questi del razzismo, della xenofobia? Questo non ha fatto nulla, peraltro. Avesse fatto un atto, avesse emanato un provvedimento sulla base di un programma. Secondo me è troppo presto per giudicare uno. Dai, su, ma lo si giudica su quello che ha detto in campagna elettorale, sul suo programma che per il quale ha chiesto ma i voti. Cosa? Ma che ma nessuno c'ha paura del programma? Ma che dici? Ma e qual è il programma? Ma nessuno avrà ha paura. Vinto per quelle idee scellerate che ha proposto. Questi sono tre signori che si vogliono fare pubblicità, si sono voluti fare pubblicità per questa roba essere, qui. Punto, può anche basta. Darsi, essere, però sarò rinunciano dei soldi? Ma interessa sapere questo. Sarebbero stati pagati? Perché se hanno rinunciato a dei soldi... Vabbè, Luciano dalla provincia di Teramo, dai, Luciano. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Io vivo vicino ai nani sulle rive del fiume. Che vuol dire? Ci fa molto piacere. Da un anno. Ci sono i nani? Quali nani ci sono sulla riva del fiume? Ci sono i nani da giardino, di fianco a dove vivo io. Sì. È praticamente un anno che sono in detenzione domiciliare, in una specie di... Noi abbiamo una specialità nelle telefonate che riceviamo spesso. Spesso sono, ci sono anche dei... adesso lei non sarà un criminale. No, è tutto confermabile, Degli ex criminali o ex detenuti o persone che hanno commesso reati, Parezzo. No, purtroppo sono ancora detenuto, mi mancano 3 mesi. Un po' come noi il 5 aprile finisco la detenzione domiciliare. Quale cosa hai commesso? Quale reato hai commesso? Io non ho fatto nulla di male a nessuno. Che hai fatto? Tutto, lo dico in tutti. Ho avuto un crack finanziario, una bancarotta praticamente. Sei un bancarottiere in pratica. Vabbè, c'è niente di strano, per carità. Cioè, ma sono fior di, chiama in questo momento? Fior di politici. Carcere, dove chiama? Dai domiciliari? No, da una casa, sono in detenzione domiciliare. Ah, d'accordo, molto bene. E sei un carcerato praticamente. Beh, sì un ristretto. Tecnicamente si chiamano ristretti. Condanna di quanti anni? Erano 4 anni e 2 mesi. 4 anni e 2 mesi? Le ha scontati quasi tutti? Cioè ne ha scontati la metà? Sì, mi mancano solo 3 mesi. 3 mesi, il 5 aprile ho finito. Ma ha scontato tutta la pena o le hanno fatto un piccolo sconto a un certo punto? Quasi un anno in totale, 11 o 12 mesi. Bene, per buona condotta ovviamente. Sì, chiaro. Ecco, anche per questo sono qui da gennaio dell'anno scorso in detenzione domiciliare. E dunque la bancarotta che di quanti soldi? Quanti soldi ha fatto la sua bancarottina? Quant'è la bancarotta? E non ricordo, è successo a Padova. Come è successo a Padova? Ho capito, che vuol dire? Cioè, se lo ricorderà, si ricorderà la cifra della bancarotta? No, non lo ricordo perché io non ero più lì e non sono andato manco ai processi. Ma sono un milione di euro, 300 milioni, quanto pressa poco la bancarotta? Di quant'è l'entità? Era più di 1 milione di euro. Era più di credo. Un milioncino di euro? Sì. Vabbè, amico mio, oltre ai nani in giardino, di giardino, che cosa ci vuoi dire? E voglio dire che sono al freddo totale qui, sono stato a meno 15 l'altra notte per il freddo, vabbè. E che dobbiamo fare noi? No, niente, volevo farti sapere che siccome io sono adesso disastrato totalmente. Ti sentivi solo e ci hai chiamato, questo è il punto. Sì, anche questo. Dire che siccome ho 52 anni e non ho alternative quando esco, non è che voglio tornare a delinquere assolutamente, dunque, però non ho lavoro, non ho niente. E che possiamo fare noi? L'unica cosa che so fare è sesso. E allora? Aspetta, questa cosa qui è un po' da approfondire. Aspetta, voglio capire. Questo è uno che racconta, dice di essere uno che ha fatto bancarotta, 4 anni, ha preso, eccetera, sta scontando i resti domicilio, dice che non sa fare un cazzo tranne il sesso. Sembra una baggianata, una puttanata, però verificheremo. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Da MediaWorld ci sono i gran prezzi, le migliori offerte del momento. Fino al 15 gennaio asciugatrice Bosch 7 kg classe energetica A+ a 399 euro. MediaWorld. 01 Distribution presenta. Dall'istante in cui metterete piede in quel paese, sarete in grave pericolo. Dal regista premio Oscar Martin Scorsese, Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. È troppo pericoloso. Abbiamo chiesto noi questa missione. Silence, dal 12 gennaio al cinema. La mia è un'azienda piccola nelle dimensioni, non nelle ambizioni. Innoviamo, cresciamo. è l'energia tipica dell'imprenditoria artigiana, ma aggiornata, capace di trasformare i sogni in storie vere, nell'interesse di tutti. Confartigianato sostiene le piccole imprese perché c'è qualcosa di grande nel loro impegno. Confartigianato, l'Italia che cresce l'Italia. Un giorno l'uomo si innamorerà di un'intelligenza artificiale perché lei sarà così previdente da evitare qualunque scontro. Con Audi A4, quel giorno è oggi. C'è chi insegue il progresso e chi lo anticipa. Con Audi A4 l'intelligenza artificiale applicata alla guida è già realtà. Da 215 euro al mese con Audi Extended Warranty. TAN 1,90 TAG 3,09. Leasing di 48 mesi. Anticipo 13.188 euro. Riscatto 10.881 euro. Offerta valida fino al 31 marzo. Info su Audi.it. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Che ne frega niente, nulla, zero. Senza controllo sanitario. La storia di Don Andrea, una chiesa in provincia di Padova. Sette donne confessano, facevamo le orge. Ecco, questo ti ha catturato la tua attenzione. Alcune di queste donne dicono che erano costrette, addirittura che Don Andrea le avrebbe costrette a prostituirsi. Una dice: mi minacciò con una lama, e spuntano fuori anche video hot. Che poche. Sembra che questo signore, questo Don Andrea, avesse catalogato dei DVD con nomi dei papi. Pure. Bellissimo. Un maiale proprio. E hanno trovato in una stanza, sopra la canonica, catene, sì, fruste, stivali, oh, con tacchi a spillo, ma una videocamera. Frutta e verdura? Va, questo non lo so. Che porcheria. Io dico una cosa, ragazzi, se sei stata col prete, adesso va bene, per carità, magari c'è stata costrizione, c'è stata violenza, non lo sappiamo, queste sono state cose. Ma se sei andata con un prete... Poi non è che può essere stata costretta, sono donne di 45, 49, 50, 55 magari anni. Sei catturate nella canonica, dai, con l'inganno, sì, della confessione, ma dai, ma un momento inganno, di debolezza, dai, di ingenuità, un momento, insomma, non sarei così tranchant come sei tu. Insomma, adesso... Mi sentirei quasi di difendere. Immaginavo. Quasi di difendere Don Andrea. Ovviamente se non ci sono reati, altrimenti se si è svolto tutto in maniera consenziente... Vabbè, ragazzi, ma che volete? Siete andati col prete? Non è che vi ha costretto il prete, non è che vi ha puntato la pistola alla tempia, no. Ma sai, lì c'è la sudditanza psicologica, magari nei confronti della tonaca. E beh, dai, può essere, sai. Dai, tutto su, dobbiamo, dai, fare un grande processo, guarda. Una delle amanti del prete dice: facevamo sesso giorno e notte. Ma perché ti è piaciuta questa storia? No, è una storia meravigliosa. Con tutte le notizie che c'è. Una storia meravigliosa, pazzesca, dai. They can't resist. Allora, abbiamo Luciano dalla provincia di Teramo, che è uno che ha i domiciliari per bancarotta. Ci ha chiamato dicendo che quando finisce il periodo di detenzione in carcere, in realtà a casa, non ha niente da fare. Dice: sono bravo nel sesso. Cosa vuol dire, Luciano? Scusami. E vuol dire, io ricordo, l'altra volta ti aveva sfidato un gigolò vegano, se non ricordo male. Vabbè, Luciano, roba vecchia. Cosa vuoi dire? Roba vecchia, però da allora ascolto e sento queste cose. Sono saltato in aria perché io a 52 anni avrei raccolto la sfida praticamente al volo, insomma. So, già, ecco. Tu hai avuto i tuoi guai, cioè, come sì. Adesso devi uscire dagli arresti domiciliari. Sì, sì, sì. Posto che tutta questa storia sia vera, naturalmente, no? E sì, adesso sì, dici, sì, io non so fare niente, quando esco da qui per non tornare a delinquere, cosa posso fare? Cosa vuoi non fare? Non è che non sappia fare niente, è che non posso fare più niente a 52 anni, chi mi prende. E allora lavoro? Che cosa vuoi fare? Scusami, spiegami. Volevo fare il gigolo. Sì. Allora, cosa vuoi da noi se vuoi fare il gigolo? Vuoi che giustamente chiama te, però. Ti facciamo un po' di pubblicità, cosa vuoi? Ecco, sì. Ma ecco, sì. Quando esci dal carcere, scusa, quando esci? Fra il 5 aprile. il 5 aprile. Luca, proviamo a fare un punto in 40 secondi. Meno di 3 mesi, mi prima mancano. Puntata dell'anno, radio sì. della Confindustria, del gruppo Sole 24 Ore. È questo che c'entra. Benissimo, c'entra. Un ascoltatore già condannato ai domiciliari. Per bancarotta. Per bancarotta, appunto. Chiama la Zanzara, l'800-24-0024, per dire che siccome uscirà dal carcere e non ha più un lavoro, ritiene questa trasmissione atta e adatta a promuovere il suo nuovo lavoro, quello dello gigolò. E chi sceglie come interlocutore? Cruciani. Io sarei per chiudere questa trasmissione, ma lo dico contro il mio interesse. Perché lei ha scelto questo spazio dalle 18.30 alle 21? Vabbè, è normale. Perché si normale. Sente più vicino a questo spazio rispetto ad altri. Una compagnia enorme. Io vi ascolto da prima di andare in galera. Vi ascoltavo in galera e vi ascolto adesso. Questo è importante. Mi fate una compagnia enorme. Non buttare per strada queste robe qua. Per carità. Non trattare male queste persone. No, non lo tratto male, lo abbraccio anche fortissimo per il coraggio. Mi sembrate come fratelli, come cugini, come persone che conosca da tanto. Lei secondo me è parente di Cruciani, però. Ma perché dovrebbe essere parente di mio? Probabilissimo. Ma no. Io, se non sbaglio, Cruciani l'ho visto a Pescara, possibile, vedi? Qualche anno fa a Pescara. Sì, può essere, eravate anche soci nella società che poi è finita in bancarotta. Ma non è vero. O ricordo male, forse. No. Ma qual era la società che ha fatto bancarotta, che dicevi tu, scusami, Luciano? È una società che riaggiustava macchine tipografiche vecchie. Vabbè, però ha perso tutto. Hai mandato sul lastrico un sacco di gente. Quanta gente è finita? No. Io sono andato sul lastrico, altro che gente. Io ci ho rimesso tutto, ma tutto davvero. Io vi farei vedere. Io sono stato verificato. Ma perché vuoi questo. Fare il gigolò adesso? Pensi di avere anche i mezzi adatti o no? Sì, penso di sì. Non penso io, me lo dicono, Non è che penso, non è cioè, che sei super dotato, che c'hai? No. Penso di essere normodotato, però nessuna si è mai lamentata, anzi mi fanno i complimenti, insomma. Tutte ma che le vuol dire? Che per fare il gigolò non è che ci vuole solo questo, una che ti fa i complimenti, altrimenti... Ci vuole la durata e poi io c'è una particolarità, Giuseppe. Dimmi, io accetto qualsiasi età, ce la faccio pure con persone di una certa età, insomma, diciamo così. Cioè prendi tutto, dici? Io per esperienza personale sono stato con una donna in là con gli anni, molto in là con gli anni. Tipo quanto? 76 anni aveva. 76 siamo al top. Le grandi inchieste. 76 anni siamo veramente al top in questo caso. Per quello dico, siccome ce l'ho fatto una volta. Sì, ho capito, però non è che adesso pullula di 76 anni che vogliono scopare, amico mio. Perché sì. Allora, scusami un attimo, ricapitoliamo anche qui, perché ci vuole una chiusura finale. Allora, questo resto, signore, bancarottiera ai domiciliari, 4 anni, gli manca un anno, dice che vorrebbe fare... No, mi mancano meno di 3 mesi. Scusami, hai ragione, meno di 3 mesi, vuole fare gigolò perché dice di essere duraturo, di avere una certa, ma soprattutto perché non si fa molti problemi, cioè può andare con una di 30 come una di 76. Certo. Questo è il punto fondamentale. Sì, giusto. Cerca spazio, cerca pubblicità, cerca un lancio imprenditoriale, se vuoi. Ecco che ho trovato la chiave, capito? Ecco che ho trovato il pacco. Ecco che ho trovato la chiave. Cioè, questo signore vorrebbe, per il lancio della sua nuova attività, che è quella di gigolò, che è quella di libero imprenditore, che è quella di imprenditore privato, singolo, magari con un sito, magari con un appoggio anche della Confindustria. Dalla Confindustria, magari. Sono amici tuoi. Parenzo, più che amici miei, potresti dire al leader dei giovani industriali, per esempio, se dà un contributo per l'inizio dell'attività di un signore che da ex detenuto cerca appoggi, cerca qualche cosa per iniziare un'attività, un atto di grande umanità. Dimmi, Luciano, dimmi. Posso dire una cosa a Parenzo? Sì, eccoci qua. Perché lo stimo anche lui, anche se a volte non siamo molto d'accordo con lei. Ti ha ammazzato questo, dimmi, Luciano, dimmi. Ecco. Dico che, per esempio, Giampaolo Panza, che conosce bene, che credo, Giampaolo Panza. Cosa c'entra che ha fatto il libro sulla sessualità di una certa età. Quello che c'entra. Per il mio tipo di lavoro, insomma, ecco. Ma no, a parte che ancora non è un lavoro, cioè, comunque, Luciano, terremo da conto, come diceva una volta Giuliano Ferrara, questa sua richiesta. La presenteremo agli organi preposti. Arrivederci. Ragazzi, è esplosa la questione grillina Europa, non frega nulla a nessuno, niente a nessuno. Cioè, dove si collocano in Europa i grillini? La cosa incredibile è che hanno provato, dunque, ricapitoliamo anche qui. I signori grillini, anti-europeisti, qualcuno addirittura contro l'euro, altri meno, comunque sempre molto critici con l'Europa, a un certo punto un si alleano prima col signor Farage, lo conoscete? Poi adesso, per questioni di quattrini, per questioni tecniche, di finanziamento dei gruppi parlamentari in Europa, cercano l'appoggio con i più filo europei di tutti in Europa. E senza chiedere nulla, probabilmente, oppure chiedendo, eccetera, si fanno dire di no. Cioè, provano ad entrare nel gruppo più filo europeo che c'è in Europa per soldi. Il gruppo di Mario Monti, per intenderci. Esatto, e questi qua gli dicono no, siamo incompatibili. Questa è la buffonata degli ultimi, delle ultime ore, degli ultimi giorni. Stupendo. Giovanni da Reggio Calabria, vai. Dimmi. Sì, buonasera, Cruciani. Vabbè, dimmi, io dimmi. Frequento il teatro quando ero bambino, il teatro lirico, l'opera. E che me ne frega a me che hai fatto l'opera, scusa, che opera hai fatto? Ti posso dire che ho conosciuto, io ho portato qua José Carreras, ho portato... Hai portato, aspetta, hai portato José Carreras qui? Sì, sì, qua a Reggio, lo posso dimostrare con le foto, gli ho dato il premio Cilea. Ma sono perché, non ho capito, Giovanni? Amici della lirica. Ma tu sei anche un cantante lirico, no? No, sono un appassionato, un intenditore, Cruciani. Vabbè, allora che vuoi? Non parlo dal gabinetto che è accanto. Non credo assolutamente. Chi è il gabinetto, Parenzo? Abbia potuto chiamare quei tre poveri disgraziati. Ah, il bolo. Domingo, io l'ho conosciuto davvero a Domingo. È uno che vuole fare soldi. Ma a tutti i costi. Che me ne frega, che c'entra Domingo? Amico di casa, ho premiato Muti, Riccardo Muti. Vabbè, come aspetta, Giovanni, stai calmo. Giovanni. Che abbia potuto chiamare a quei tre poveri disgraziati a Cosola. Quell'altro, quello cieco, come si chiama là? Non ci credo per niente, perché Trump è pure un intenditore di lirica e non conosce questi poveri disgraziati. Non è vero che è in America, non illudetevi. Loro mi ha detto una volta, Ornella Vanoni, ha detto: senti Giovanni, dicono di avere cantato all'Olimpia. Vanno a fare le comparse all'Olimpiade di Parigi. Ora questi qua, come quell'altro ballerino. Aspetta, Giovanni. Giovanni, fermati, Giovanni, dove sei? Sì, sono qua. Ma come hai arrabbiato? Non è vero che. Aspetta, abbiamo capito. Secondo te, Trump non li ha invitati? Allora, io voglio capire. Non li conosce neppure. Non li conosce. Sono questo... sconosciuti questi qua. Va bene, Giovanni, ma perché hai chiamato Parenzo Gabinetto? Scusa. E perché è un gabinetto che li difende, che dice che sono io sono un intenditore, ho portato tutti i se volete di che cosa le foto. Lirica sono con Di Stefano, sono e lui questo qua difende sempre indifendibile, sempre indifendibile. E che c'entra il gabinetto? Indifendibile. È un gabinetto non da adesso, da quando cominciai a sentire gabinetto, trasmissione. Ma scusi, sempre, voglio capire, sempre indipendibile, ebreo e con i palestinesi. Scusi, no, assolutamente con quell'altro. Ma non ho capito, ma è un gabinetto di quelli chimici o un gabinetto almeno di quelli da quello importante? Fanno bene. Niente, c'è un gabinetto, guarda. Ma no, ma che tipo di gabinetto? Una cosa importante. Cioè, se è un gabinetto chimico un po' mi offende, se invece è un gabinetto di un albergo 5 stelle già di più, no? Gabinetto, insomma, no? Che gabinetto sono? Che tipo di gabinetto? Capo gabinetto, come dici giustamente. Il capo di gabinetto, bravo. Di quello bravo, Gabriele, alla bravo. Alla turca. Quello è la pure, turca. Se vuoi. Hai il mio numero. No, ma perché non valgono a niente. Come quell'altro bolle. Lei quando torna a casa telefona in genere? Non è vero che sia stato in America. Guardi nell'armadio quando torna a casa, le do questo consiglio. In camera da letto. Così. C'è mia moglie. No, se c'è l'amico di mia moglie. Se c'è l'amichetto. Ti sbagli, guarda. Apra le porte dell'armadio, si fidi. Sono la mia fotografia. E hanno la mia intelligenza. Questo lo dice lei. In paese dicono cose diverse, però per carità va benissimo. In giro dicono cose diverse. A Reggio Calabria dicono cose diverse. Io sono faccio il premio Cilea, io si fede, e poi il più grande cantante mentre lei chiama qua a casa sta avvenendo qualcosa cantante. Si figli di me, mentre lei è qui al telefono a casa lì si stanno divertendo, quindi le consiglio di andare a casa subito. Ma perché sei fissato a casa, gabinetto. Sono a casa. Ma perché sei fissato con sta cosa? Vabbè, allora se lei è a casa il telefono fa Giovanni. tu perché evidentemente nell'altra stanza qualcuno si sta a divertire. Ciao, tu vuoi dire che mia moglie sta scopando, mia moglie sia con qualcuno, ma per carità, sì, ma per carità, ma non sia mai, ma c'è non sia mai ebreo, ma per carità, ecco comunista, ecco, ma che c'è stato, ecco. Guarda, ecco. Cosa è Finocchio, ecco. Dichiarato bolle. E ma che c'è, si sa che si sa e non è vero, cos'è bolle, Finocchio, si sa, questo è cruciale, però stai zitto, cosa bolle, imbroglione, ma perché imbrogliona, non hanno sfondato all'estero, io guarda sono uno dove mi sono cresciuto, in un teatro, ho girato tutti i teatri d'Italia, e ti posso dire che quei tre sono un blef. Di Domingo. Ma che c'entra Domingo? Se la posso dire, che se ne frega. Ma Trump non li conosce. Ma non me ne frega niente. Nemmeno Trump e Bocelli. Gli americani solo possono apprezzare a una voce da neonato Bocelli. Ma hai capito? Ma questa battaglia, ma chi se ne frega però? Ma perché uno si può accalorare così? Uno? Se tu dici no, se tu dici che si sono rifiutati a Bush. No, no, Trump. Sai perché? Virrode che abbia vinto Trump. Non me ne frega. Virrode, state rosicori siete. Poteva vincere quella puttana della cosa. Ma no, ecco, no, è importante dare, avere sempre dell'occhio sobrio. Quello è importante. Clinton, avevano contato. Scusami, Giovanni, tu conosci. Vabbè, ho capito. Giovanni, tu hai conosci una che si chiama Meryl Streep, un'attrice che si chiama Meryl Streep, conosci? Caspita, te la conosco. È premiato, ma è brutta. Cioè, ma che c'è? E sai chi è che la rende famosa? Chi? Maria, la cosa, la May, che è la doppia. Chi? E lei, la doppiatrice. Perché se non avesse quella voce, ma che c'entra? È brutta. Ma è che brutta, c'entra? Nove volte Oscar, perché è comunista, perché gli Oscar sono tutti di sinistra. E tutti non, sinistra, non dire giusto, a me che io sono un cinefilo. Io sono un cinefilo. Io sono cresciuto con Bill Wilder. Lei è disturbato. Ma pure Bill Wilder, ma quale Bill Wilder? Ho ma lei è un disturbato. Zitto gabinetto. Zitto gabinetto. Zitto. Di Berlini fino a un certo punto. Zitto gabinetto. Quando Berlini cominciò a fare il comunista. Pure quando Berlini cominciò a fare il comunista. Fellini comunista. Pasolini. Zitto gabinetto. Ma chi? Aspetta. Sai chi era? No, aspetta. Quello là. Guarda che a me ha detto Danny Lloyd che sono un grande intenditore di cinema. Ma chi non si chiama? Che c'entra quello è morto? Tutti lui non può dire nulla ormai. No, non mi calmo, perché non è vero che Trump ne abbia chiamato. Ma Monicelli, anche Monicelli ha conosciuto. Monicelli, anche Monicelli ha conosciuto. Mario Monicelli, io l'ho conosciuto. Sì, beh, ha fatto qualche film con la Grande Guerra, per esempio. Certo, e Bolle? Ma che c'entra Bolle? Bolle, niente, guarda, ieri sera l'ho visto nel Lago dei Cigni. Non si muove, io sono un'altra cosa. Ma se ne frega di sta storia. Sono amico di Nureyev. Ma non me ne frega niente sta roba, veramente. Di Nureyev, sì, amico di Nureyev. Ma che, com'è che da Giovanni... Ma com'è possibile che Giovanni da Reggio Calabria dica di conoscere tutti questi 90.9% morti per giunta e che ovviamente non possono smentire né confermare? No, ti mando le foto. Ma di chi? Di che cosa? Di quello, ma tira lo sciacquone, ma io tiro lo sciacquone adesso perché mi sono stufato. Se io sono un gabinetto, io tiro lo sciacquone perché lei è un'altra cosa. Se io sono, se è vero che io sono un gabinetto, io ora tiro lo sciacquone perché lei è un'altra cosa. Ce l'ho davanti a Roberto Alagna, a Traverso, ce l'ho qua, che l'ho premiato io. C'era il sindaco Falcomatà, che era amico mio, però più amico tuo che era comunista. E ho la foto, sono io, Stinchelli, lo conosci a Stinchelli? Ma chi? Chi è? Lo conosci a Stinchelli? Ma chi sono? Stiamo premiando José Carreras e io sto parlando con Stinchelli, con lo smoking, non come voi che andate con questi jeans schifosi. Io ma sono con lo smoking. Io ho gli jeans effettivamente. Katia Ricciarelli, se lo vuoi sapere, Katia Ricciarelli e mia comare ha passeggiato la mia nipotina e ha casimato mia figlia Maria Ruggeri. E io sono il consigliere politico di Trump allora. Di che? Io sono il consigliere politico di Trump. Comunque, diciamo insieme, scusa Giovanni, diciamo insieme a Parenzo. Sei un gabinetto, diciamolo. Oh. Io sono un gabinetto. No, sì, Parenzo, anche, quello è sicuro. Lei è un'altra cosa, allora. Lei è una cosa che nel gabinetto scende giù quando si tira l'acqua, se io sono un gabinetto, se vogliamo usare da subito un linguaggio. Giovanni ha detto che sei una merda in pratica. No, guarda, quello che dici tu, lei è un poveraccio. Sei Parenzo, perché per i cazzi che ho, che va vantate sempre l'indipendente. Quel ragazzo là, quello che ha fatto, faceva il cinema con Verdone, ha detto una cosa giusta. Per non succedere una strage in Italia, non ce ne togliamo dai coglioni questi negri. Sì. Hai capito? Ai negri pure, io ce la sono un uomo di teatro. Sì. Sai che cosa mi hanno consigliato? Quando ero ragazzo, per quanto ero bello, Giorgio Albertazzi, Paolo Carlini, Vittorio Gassman, mi bastano questi nomi. Scusami. Poi, ma, Giovanni, mi hanno consigliato di andare a fare l'attore di teatro. Ma sono tutti morti questi. Bello, e avevo una bella voce. Hai capito? Io ho conosciuto Giovanni. Giovanni, scusa una cosa, ma Parenzo è un gabinetto sempre? Ancora ti è piaciuta questa cosa? No, non è stato da quando l'ho conosciuta. Quando ma non l'hai mai conosciuta? Quando l'hai mai visti? Ah, l'hai conosciuta? No, non ti voglio vedere. Guarda, no, era reciproco, caro. Perché era simpaticissimo Crociani. Perché Crociani dice le cose papale papale. Ecco, benissimo. Grande endorsement. Grande endorsement. Ma per esempio i negri, che ne pensi dei negri? Domingo. Ma che c'entra Domingo? Chi tutta sta Domingo, sai che fa? Che fa? Canta da baritono adesso. Sai che vuol dire baritono? Ma che me ne frega a me? Scusami, devo avere la voce più scura. Ma che c'entra con i negri? Che cazzo ne sai tu, Parenzo, di queste cose? Ma io nulla, ma non me ne frega neanche niente. Io non ne so nulla, ma non mi interessa nulla, peraltro. Scusami. Ah, non ti interessa, allora sei ignorante. Non mi interessa nulla di tutto questo elenco di gente. Di Daniele, quello ebreo. Chi è l'ebreo? Daniele Oren. Di Daniele Oren, grande direttore d'orchestra, lo conosco benissimo. È un grande direttore d'orchestra. Scusami, Giovanni. Ti stima tanto. Ti stima pure. Ti stima tanto. Di Spino Sardini. Scusa, ma i negri. I negri. Mi stimavano tanto. Vabbè. Perché quando mi sentivano parlare. Giovanni. Io parlavo di opere. Io da intenditore. Io conosco da Wagner a Mascagni. Vabbè. Tutti i musicisti. Giovanni, ma i negri. Che dobbiamo fare con i negri che vengono in Italia? Con i negri. Li dobbiamo mandare in Africa. I negri in Africa. Beh, questo è un amante della lirica, grande uomo di cultura. Di Reggio. No, dico, sta parlando un grande uomo di cultura di Calabrese, no? Calabrese, sì. Sì. Pure no. Noi abbiamo fatto gli immigrati, una storia. Pure noi siamo andati. Ma che c'entra adesso? Ma noi, quando abbiamo trovato l'America. E i Rom? E i Rom? L'abbiamo ricostruita noi, gli italiani. Questa è bella marcia, c'è sempre. Ciao Giovanni. Questa è bella marcia. Ciao Giovanni. Ciao. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Vergogna, su 12 mesi ne lavorate 2, vergogna, vergogna! David, sei tornato da Cortina? Ma vattene a fanculo, va! Cioè, insomma, voglio capire una cosa. Allora, in estate, 6 settimane di ferie. A Natale, 2 settimane di ferie. Insomma, voi sareste quelli che lavorano? Maiata a fanculo. Beh, ma cazzo, le avete finte queste vacanze? Oh, lavorate meno dei forestali della Calabria Saudita. Parenzo, smettila di grattarti i coglioni. Comunque siete diventati veramente dei parastatali impuniti. Il 9 di gennaio. Ma vi rendete conto? Il 9 gennaio ricominciate. Bah. Oh, ma riprendete che mi tocca quasi di parlare con la mia fidanzata. Allora ragazzi, c'è un signore in un che paese. Gente, però, che mondo. Ma pazzesco. Perché che mondo? Gente, no, uno spaccato incredibile. Allora, c'è un signore che è il capo della polizia locale di Biassono, provincia di Monza e Brianza. Come no, ho visto tutto. Il quale è il capo della polizia locale di un piccolo paese, ma pur sempre il capo della polizia locale di Monza e Brianza, che si chiama Piacentini, questo signore Piacentini, il quale ha indossato una divisa dell'SS. Sì. E vabbè, uno dice cosa? No, a casa sua fa quello che vuole. Aspetta, dico, se uno la indossasse a casa sua, no, fa quello che vuole. Per però, carità. Siccome è il capo della polizia locale di Biassono, posta una fotografia con tanto di divisa, pure con gli occhialini. Dunque, sembra quasi una specie di gerarca, no? Nazista, eccetera. Non si limita a pubblicare questa fotografia, no. Ma aggiunge questa frase: una compagnia di questi. Basterebbe una compagnia di questi, cioè una compagnia dell'SS, per sistemare alcune cose. Pazzesco. Cioè, secondo questo signore, capo della polizia locale di un piccolo paese in provincia di... Si è dimesso, spero. No, pare che il sindaco leghista dice sì, l'ha attaccato dicendo una cosa incredibile, però non lo vuole cacciare. Anche per il sindaco leghista è troppo. Allora io dico una cosa, cioè, no. Anche per il sindaco. Sì, anche per il sindaco leghista è troppo. No, dico, questo qua è uno che dice, no, non lo difendo. Cioè, questo qua è uno che dice che lo fa perché c'è... alcuni praticano questa specie di attività che si chiama, com'è che si chiama, rievocazione storica, no? Che va benissimo, per carità, uno può indossare le divise che vuole, però la si pratica in posti limitati, cioè non è che uno la mette delle fotografie su internet, soprattutto se è capo della polizia locale. Gli ospedali, i psichiatrici, i giudiziari si può vabbè, fare uno può fare quello che vuole, se uno si vuole vestire con le divise però non diciamo che è normale, almeno ti prego abbi la decenza almeno di non difendere anche questo, che è normale vestirsi da gerarca nazista, farsi il selfie sulla rete, come direbbe Grillo, almeno questo ti prego, grazie a Dio accetto tutto quest'anno, ho detto che accetto tutto 2017-2018, d'accordo, sono qui alla Zanzara 18:30-20:50, va bene, ma non far passare per normale tutto, perché no, non è normale. Dico, non è normale a me pure normale. Questi signori che fanno le rievocazioni storiche, se è vera questa cosa, che non so se è vera, che si mettono la divisa nazista dicendo io però non sono nazista, però vanno in giro e vogliono fare le rievocazioni insieme, si vestono insieme con le divise naziste, francamente un po' qualche rotella che non funziona. Sì, ma adesso forse. al di là delle quelle che fanno le rievocazioni storiche della battaglia ognuno fa quello che ma vuole. Ma per carità di Dio, va benissimo, ma la battaglia di Waterloo, amico mio, perdi le domeniche vestito con un soldato napoleonico anziché stare a casa con la tua fidanzata a far l'amore o a guardare un film, a leggerti un libro, ma come fai a vestirti la domenica mattina e rievocare la battaglia di Waterloo? Io non dico il patto Ribbentrop-Molotov, ma la battaglia di Waterloo, anche quella mi manda il sangue ai matti. E lui dice no, ma accettiamo anche, è normale, normale far finta di spararsi con dei carri armati come dei pirla. Io lo so che ci sono centinaia di persone che fanno queste cose, ma non dire che è normale, non dico che è normale la domenica mattina. Sì, però il punto qui è diverso, questo è il capo della polizia locale di un paese, comunque ha un ruolo istituzionale, tra l'altro, appunto. E aggiunge, non solo pubblica questa foto, ti aggiunge anche la frase: basterebbe una compagnia di questi, cioè di nazisti, in sostanza, per sistemare alcune cose. Ragazzi, che vi devo dire? Io proverei però a chiamare il signor Bracconeri. Ripeto. L'attore Bracconeri. Sì, Bracconeri. Ripeto quello che ha scritto il signor Bracconeri. Ha detto in sostanza che si augura un attentato, perché qui ho perso la cartuccella, naturalmente. Si augura un attentato, no, eccola qui. Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo, ma solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni il PD e i clandestini. Poi la rivolta. Ragazzi, chiamiamolo così, chiariamo una volta per tutte questa frase, dai. Pronto? Fabrizio! Sono io, chi è? Sono Cruciani, come stai? E Parenzo, ciao. Oh, Cruciani e Parenzo. Bracconeri, grandissimo, Bracconeri. Grandissimo. Ne hai sparata un'altra delle tue, dai. Vabbè. Ma che è successo? Chiudiamo tutto. Ma che è successo? Io non capisco. La gente non gli piace sentire la verità. Cioè, qual è la verità? Scusa. La verità è che per levarci di torno questa indiscriminante politica indiscriminante che sta facendo. Che fanno a tutti quanti, non si può più. No, ma indiscriminante politica, cioè tu dici questa politica a chi ti riferisci? Indiscriminante politica, che vuol dire? No, questa invasione indiscriminata. Cioè questa invasione indiscriminata invasione di tu chi? Dici degli immigrati. Dici. Cioè, e dunque? Io sono un po' preoccupato. E dunque? Se il capo della polizia dice no, forse o ma dice. Subiremo un attentato, sì, pagheremo Gabriele, a caro sì. prezzo. Se permetti, io sono un po' preoccupato per questo. Ma dice, no, ma tu non sei preoccupato, hai detto che ti auguri un attentato. Ecco, appunto. No, non ho detto mi auguro un attentato. Fabrizio, proprio tu, vi sembrerà assurdo. Se tu leggi quello che c'è scritto... È quello che hai scritto tu, scusa. No, leggi che c'è scritto. Vi sembrerà... Solo un attentato, non vuol dire io mi auguro un attentato. Manco con le bombe questi si levano da essi. Hanno preso il 67% di no e stanno uno stato normale, normale di cui io faccio parte e mi sono rotto i coglioni di questo stato. Sì. Va lì e li caccia via, facciamo le elezioni. Tu hai detto questi solo facce da culo che stanno con loro rimangono sedute nelle loro poltrone fino al 15 settembre per rubarci ancora il vitalizio. Ma cosa dici? Siamo rotti. Scusami Fabri, ma tu hai detto solo un attentato in Italia ci leverà dai coglioni PD e clandestini. Mamma poi mia. La rivolta vuol dire che solo un attentato appunto, che solo... come l'hanno fatto non ho detto mi auguro un attentato solo se arriva un attentato mi piange il cuore. No, se dovesse nel caso in cui arrivasse un attentato questi potrebbero saltare dalle sedie. Altrimenti noi ce li abbiamo legati qui con questa politica dell'integrazione che vogliono fare a cazzo di cane a cazzo per di mantenere cane. cooperative per mantenere tutte queste associazioni che hanno creato, sì, da papponi. Perché non lo dico io, ma questi sono i fatti. Scusami, la gente non ce la fa più. Che faresti, gente, con gli immigrati clandestini? Cacceresti tutti a pedate nel sedere subito, via? Io sono contro questa Europa di merda, la odio, questa Europa, sì, cioè, la odio. Odio l'euro, vorrei uscire dall'euro. Ma che c'entra l'attentato? Ti prego, non sta parlando Stiglitz, per cortesia, non è Stiglitz. Al di là dell'attentato, la rivolta, che vuol dire la rivolta? Quale rivolta? Che il popolo si rivolterà. Ma come, in che modo? Poi la rivolta come? Con i forconi, in piazza, con la rivolta, con le pistole, con i fucili, come? Qualche bastonata toccherà dargliela. Qualche bastonata? Ma chi? Ma cosa dice? Io qualche bastonata cado, dai. Ma chi gliela dai sta bastonata? Fisicamente a chi gliela... Ma io mi chiamo, la prendo con i clandestini. Oh. Sacchi, i clandestini vengono perché Sacchi, noi fa entrare. Perché noi fa entrare. Sì, voi fate le stronzate, Sacchi. Però tu devi sentire quello che dice la gente. Tu che faresti con la sede dell'Unione Europea? L'abolirei, li caccerei via tutti. Tutti. Sono dei papponi. Mettiamola una bombetta, no? A questo punto, no? Mettiamola una bombetta. Guarda, io non so per ammassaggi. No. Io so perché. Se non capisci, te do un calcio nel culo, però. Ecco, se non capisci, io te do un calcio in culo. Allora i clandestini, capire... i clandestini, che faresti con quelli che stanno in Italia, che vengono coi barconi? Che faresti? Via, cacciarli via subito, no? No, io li prenderei. Non andrei in Libia a prenderli sul bagnasciugaloro. Mi metterei con tre navi. Tutelerei il mio mare, qui in Sebastia. Se no, andatevene in Grecia, andatevene a Cipro, andatevene a Malta. È una ricetta abbastanza semplice. Deve intervenire un'ambulanza, deve venire gente specializzata. Non possiamo intervenire. Ma quale ambulanza? Ma tu vai a realtà? Ma dici delle cose in libertà, ma usi delle parole in libertà. Ma amico mio, ma io ti voglio anche bene. Sei stato un grande attore, sei molto simpatico, sei divertente. Grande attore adesso, non esagerare. Ma un grande attore, ma certamente. Non esagerare, grande attore, no, magari. Ah, bravo attore, già hai cresciuto. Generazioni di ragazzi che guardavano i ragazzi della terza C. Dopodiché, amico mio, se tu mi parli, ma te lo dico con la tranquillità, la franchezza, la pacatezza, sì, di economia contro l'Europa, contro le cose, amico mio, ognuno si occupi delle cose sue. Dai, non diciamo, scusatemi un attimo, ma noi siamo tutti così, ma come fai a scrivere che ci vorrebbero degli attentati in Italia? Siamo, ma come si fa a dire una fregnaccia simile? Solo un attentato, dai, solo un attentato, hai cagato fuori dal vasino, dai, su, hai cagato fuori dal vasino, dai. Ma io, ma tu stai a me quando vuoi per parolacce la vecchietta che hanno bastonato i marocchini. Ma non rompere i coglioni, dai. Ma voi telefonate e chiedete scusa. Noi. Ma voi state dicendo... Sì, voi. Noi abbiamo già risolto quella cosa lì. Però l'avete fatto. Ma che vuol dire? Allora abbiamo chiesto scusa, punto. Tu ti sei augurato un attentato? Ma ti sei augurato un attentato? Non è... Vedi che stai a dire delle cazzate. Non ho augurato un attentato. Su, hai detto solo un attentato in Italia, ci leverà dei coglioni, PD e clandestini, poi la rivolta, che vuol dire? Ma perché l'ha detto Gabrielli, non ho detto io che ci sarà un attentato. Oh, ma che siete rincoglioniti? Quello l'ha previsto, ma che vuol dire? Io ho previsto che ci sarà un attentato. Ma tu sei sotto sotto, sei contento, dici mi piange il cuore. No. Però solo grazie a un attentato ci leveremo dai coglioni il PD e i clandestini. Mi piange il cuore. Quello che hanno fatto, che manca il voto, gli è bastato per mandarli tutti a casa. Senti, non ho capito, ma i rom, i campi rom, ti piacciono i campi rom? I campi di zingari, se dici, non di rom. Perché si chiamano zingari. Zingari, vabbè, e che ci faresti con no, i zingari? Dobbiamo stare noi, ma noi siamo quelli che abbiamo coperto i monumenti nostri, le statue nostre, perché erano nude quando abbiamo invitato che cazzo abbiamo invitato l'arabo. Ah sì, l'arabo, sì. La nostra presidente della Camera, se mette il velo si va in Arabia. Si va nei paesi musulmani. Basta una sai comunque. Scusa, e allora no, i zingari? Se tu vieni a casa mia, fai come dico io, se no te ne stai a casa e tua. E gli zingari? Come io te vengo a prendere, E gli zingari che fanno con i zingari? Beh, nella guerra. Con quelli che stanno nei campi rom, li abbatto, li levo, o li integri, o se no, se tu sei un nomade, cominci a mangiare. Ma non vuol dire che andiamo in giro. Te ne vai a fanculo in Spagna, in Francia, in Svezia, in Germania, poi ritorni, poi rivai, stai un giorno, due giorni e poi te ne vai a fanculo. Giri come nomade, non puoi stare fisso da me. Certo. L'attentato, solo un attentato, amico mio. Io dico, Fabrizio, che vista la situazione, senti, vista però, la ma l'hai spiegato, vista la situazione, solo con un attentato questi si levano dai coglioni. E perché non si poteva levare dai coglioni in nessun modo? Allora dico, se Gabrielli dice che ci sarà un attentato, nella disgrazia, nel male, c'è un vantaggio, fortuna, c'è un vantaggio, dici. Che almeno un minimo di vantaggio lo possiamo trovare nella disgrazia, nella sfortuna. Abbiamo un vantaggio. Ciao, ciao, Bracconè, ciao. Saluti, ciao, ciao. Ciao. Il signor Bracconeri fa Fabrizio Braconeri, vabbè, della terza C, amico vabbè. Mio. Vale tutto, vale tutto. Vale tutto. È la fine di tutto. Io non so se è peggio Braconeri che si augura un attentato o Scilipoti che fa parte della commissione NATO che si occuperà dell'Ucraina. Guarda, è una bella gara. Scilipoti, commissione della NATO, parlamentare della NATO che si occuperà dell'Ucraina, notizia di queste feste natalizie. E Bracconeri che si augura un attentato per risolvere la situazione in Italia, per toglierci dai coglioni, dice lui, il PD e i clandestini. Io l'ho letto questa notizia ho pensato a un nuovo film di Totò, no? Sei Totò contro maciste. Ma cosa dici? Quale notizia? Quando ho sentito Scilipoti alla NATO, tuo amico Scili, tuo amico Scili. Hanno fatto un nuovo film, no? Scilipoti alla NATO, bellissimo, divertente, come dire Totò e maciste, Totò e Cleopatra, è uguale praticamente. Fermi lì. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, La Zanzara. Miserabile, io se vengo lì bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Siete veramente due pirla. Luciani, non so chi cazzo sei, non so che faccia hai, so solo che il mio ragazzo t'ascolta tutte le sere. Vaffanculo! Allora, Eugenia da Reggio Calabria. Eugenia da Reggio Calabria, però voglio ricordarvi di capire che si rompono anche le coppie, però qui assolutamente ci sono... ma siamo specializzati in questo noi. Siamo assolutamente specializzati. Cioè che sono gente che ci sono gente, pensa come parlo ormai, mamma mia. C'è gente, almeno questo. Ormai mi sono proprio abbassato. C'è gente che chiama dicendo: no, il mio fidanzato preferisce ascoltare la radio piuttosto che fare l'amore con te. Cioè, ti rendi conto della situazione come è precipitata in basso ormai? Perché? Scusa, non ho capito. Gente da elogiare. Se uno preferisce ascoltare, ma è gente zanzara, da esaltare, piuttosto da elogiare, che magari fare una carezza alla propria fidanzata, darle un abbraccio. Luciani, posso intervenire? Sì. Sì, scusi. Ok. Allora, io sono Maria Eugenia, chiamo da Reggio Calabria. Sì. Aspetta un attimo, scusami un secondo, scusami se ti interrompo, perdonami se conduciamo questa trasmissione, vogliamo portarla avanti. Scusi, caro. Però c'è una cosa che dovete sapere, alle 20:30 dovremmo avere il divino in diretta. Non è vero. Aspetta, però devi stare molto calmo, perché le cose vanno fatte bene, possono fare le cose sempre così alla cazzo di cane. No, per carità. Ecco, allora. Fra qualche minuto vi spiegheremo come realizzare un rituale magico collettivo già praticato in parte, in parte anche un po' abortito, sulla rete pubblica della RAI. Sulla rete pubblica meno della male RAI. Che lo facciamo a borse chiuse. Il rituale non magico collettivo è quello per il dimagrimento. Ecco, e ti prego, ecco. Perché io sono amico del divino. Devo dire la verità: sono amico del divino Telve. Sono anche orgoglioso di essere amico del divino. Sì, per carità. Una volta andavamo a fare delle cose insieme dalla Meloni, quando quella specie di convegno non che facevo ogni anno. La Meloni, però dopo capito, questo un'altra la Meloni invitava il divino. Sempre fisso, vabbè. Ogni anno fisso, vabbè, il divino tempo. Vabbè. Allora. No, non dico niente, perché aspetta, carità, Eugenia, non stai ferma là, scusami. Questo è importante, però. Come realizzare un rituale magico collettivo per il dimagrimento? Ma stiamo scherzando. Tutti noi siamo un po'. Molte persone, io no, nemmeno io. Però siamo preoccupati dopo le feste per il dimagrimento. Il divino Telma ci offrirà un rituale magico a gratis. Comunque a gratis. Rituale magico per il dimagrimento. Dovete procurarvi, ripeto, lo ripeto per la seconda volta. Sì. Dovete procurarvi sale grosso, tre granelli di sale grosso. Dai. Ci dice il divino non fino. Al divino si dice detto grosso, con tutto rispetto, cioè, ti rendi conto? Ti rendi conto? Aspetta, ecco. No, dai. Ti rendi conto, però questo è importante. Ma io non ho detto niente, ma ti rendi conto? Sale grosso, almeno tre granelli non fino. Tre specchio granelli. Prensile da tenere in mano. Sì, specchio prensile da tenere in mano. Prensile, che vuol dire? Adesso mi sfugge anche prensile. Che si può. No, che cos'è? No, specchio prensile. L'ambiente degradato. Una che striscia, si può prendere. Aspetta, prensile, sì, che si può prendere. Una striscia di stoffa, un fazzoletto bianco da mettere in fronte, da cingere alla fronte, dici. Io sto seguendo le indicazioni. Cioè, uno del si divino. Mette sulla fronte? Una specie di bandana. Uno si cinge una bandana. Una specie di bandana bianca. Sì. In una mano ha il sale, tre granelli. E in un'altra uno specchio. È questa la cosa, aspetta, che tu stai dicendo? Ho capito. No, poi, per carità. Poi c'è un Io rituale. Dico semplicemente che il presidente della Confindustria, dottor Boccia, il presidente dei giovani industriali, Gai, i nostri editori. Mi dispiace. Scusate se nella radio della Confindustria, in cui si dovrebbe parlare di economia, di flussi, no, di cose di vero, mercati, no, di cose, no, non lo so. No. Di, comunque, libera la voglia di fare. Libera, libera la voglia di dire tutte le cazzate che vuoi. Si sono liberate le bestie invece qui. No, aspetta, la voglia di fare. C'è qua il rituale, mi sembra, di Otelma. No, rituale. Lo vogliamo anticipare il rituale di Otelma. Aspetta. No, aspetta, però ce l'abbiamo il nostro rituale. No, Eugenia, dai, dopo andiamo con il rituale. Ok, posso parlare? Sì, sì. Tu anche tu hai bisogno di dimagrire, Eugenia? Sono cazzi miei. Ascolta, allora, ti volevo dire, se tu sei il consigliere politico di Trump. No, io non sono il consigliere politico. Fammi parlare, posso parlare? Ma non sono il consigliere politico. Posso parlare io? Sì, Eugenia, dimmi, perché qua chiamano tutti. Allora, se tu sei il consigliere politico di Trump, io sono stata cresimata da Katia Ricciarelli. Mia nipote Ginevra è stata battezzata Katia Ricciarelli. Ho capito, ma chi sei? Io padre ha una cultura non indifferente, che io potete succare tutti, Giovanni, quello che ho chiamato prima Reggio Calabria. Ma adesso chiamano anche i parenti di primo grado. Ma io che mia madre, siete quella che era in salone con lui che ascoltava. Dov'è tua madre adesso? Ma sarà gestendo qualche bordello costituito da questi immigrati che difende a spada tratta? No, capito, guarda, io ti dico una cosa, scusi, da donna, capito, se avessi dovuto avere un figlio come te, avrei preferito l'aborto, perché tu sei mio padre, ti ha chiamato gabinetto elegantemente. Sì. Io ti bella chiamo certo, bella perché famiglia. Sei un certo. Ma che bella famiglia. Io seguo la Ma adesso chi chiama? Ma adesso chi chiama? Anche la nonna? Chiama anche la nonnina ora? Chiama anche la nonnina? Culo, non te chiamalo. L'aveva nessuno. Facciamo chiamare anche i parenti di quarto grado ora. Della inutile, adesso chiama la figlia. Inutile. Poi chi è che chiama? Sei la nonna, la moglie, inutile, il cognato. Chi è che chiama? Ma quali contribuenti? Quali contribuenti? Ma di quali contribuenti? Ma vada a farsi bene. Per dire puttanate alla radio. Mai troppo questo. Come quando è stata per quella vecchietta malmenata da un marocchino. Tu hai difesa spada tratta il marocchino. No, questo non è vero. Io ti auguro che capiti a tua madre una cosa del genere. Eugenia, poi vediamo, puoi spiegare? Se vieni in radio a fare lo sbruffone. In radio. Eugenia, Eugenia, puoi spiegare il significato della parola gliela puoi sucare a mio padre, perché molti non hanno capito questa cosa. Ecco, non ti preoccupare, infatti, che è un termine che si usa moltissimo su Facebook. E che vuol dire? È una bella famiglia, non comunque, mi pare. Ma una che famiglia vuol dire, Eugenia? Chi vuole capire capisce. Ma no, è una famiglia molto unita, mi pare, questa. È inutile che fai lo sbruffone, hai capito? Bella, bella famigliola questa. Cioè, io guarda, ti ho seguito da anni. Ce con te, ce l'ha. E certe volte mi dispiace di aver fatto. Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non lo considero nemmeno. Ti dico però di andare a controllare sua madre. Ottimo, ottimo. No, quello non si preoccupi. Quello non si preoccupi, signora cara. Che bella famigliola che avete. Ma che bella famigliola. Ma che bella famiglia allegra. Che bella famiglia. Deve pagare le tasse. Che bella famiglia. Che tira un bordello, si devono pagare le tasse. Bella famigliola. Ma che bella. Ma scusa. Sei una persona inutile. Lei si capisce che è figlia di suo padre. Comunque, lei si capisce che è figlia di suo padre. Volevo dire solo queste due parole. Dimmi. Confermo, io sono stata cresimata da Katia Ricciarelli. Mia nipote ma chi se ne frega? Ma che me ne frega a me? Ma non me ne frega nulla a me di chi è? Io no, perché non me ne può fottere un cazzo. Ma io non sono nessun ma questa non perché chiama? Ma questa signora così educata, perché chiama? Ma perché chiama questa? Ma allora, cerchiamo di capire. Richiamo questa qua. Il primo della trasmissione La Zanzara del 2017 si apre con un signore da Reggio Calabria di cui a me non me ne frega niente. Non si apre, niente. Un'ora è passata. Beh, un'ora, sì, ho capito, ha parlato 30 minuti, allora, parlando delle sue relazioni con mezzo mondo dello spettacolo e criticando il volo. Questo deve essere anche uno conosciuto, questo qua, secondo me. Sì, ma va benissimo, ma non me ne Presidente frega niente. Presidente dell'Istituto Lirico, non so piccato, di che cazzo. Piccato, chiama la adorata figliola, che evidentemente piccata, è cresciuta, piccata. Chiedo, ma ormai è del linguaggio. Io padre ha una cultura non indifferente, ecco, che la potete succare tutti. Ecco. Di nuovo, questa, di prima. Che parla con linguaggio aulico seguendo le orme del Santo Padre, cioè di suo padre, usa lo stesso linguaggio. Quell'altro mi apostrofò tal gabinetto, la adorata figliola. Ora aspettiamo la telefonata della moglie e di tutti i parenti fino al però sesto tu grado. L'hai insultato, dicendo: no, stai io, attento, no. Nell'armadio ci può essere l'amante della moglie. No, la figlia, detto, giustamente. Mi sono permesso semplicemente di dire, ma non era rivolto direttamente a lui, era in aspetta, generale. Aspetta un attimo, adesso lo richiami di nuovo. No, Eugenia, no. Chi per lui? Sono permesso per di dire attenzione all'armadio, perché l'armadio è sempre. Però per carità, Eugenia. E non risponde adesso, Eugenia. No, mi dispiace perché dice che mi ascoltava sempre, però chi se ne frega. È il padre che ha chiamato, mica ho chiamato io. Che sì, cazzo appunto, vuole? Esatto, tra l'altro. Ha come? Chiamato il padre per accusare del volo, e secondo me giustamente, e per dare del gabinetto a Parenzo, che giustamente, giustamente ha reagito. Giustamente, no, giustamente ha reagito, dico, giustamente ha reagito. Dai, ragazzi, su. Adesso però non starei qui a ricercarli in modo spasmodico. Scusa, abbiamo anche il numero del padre. Abbiamo il numero del padre. Io non starei qui a ricercarli in modo spasmodico. No, perché tanto per capire come adorata famiglia, diciamo. Che appunto che aria tira in quella famiglia. Mi pare di aver capito che aria tira in quella famiglia lì. Mi pare di averlo, non ne sento il bisogno. Io parlo di una cultura non indifferente, che la potete succare tutti. Questo l'abbiamo capito. Va bene, va bene. Controllo sanitario. Allora ragazzi, dove andiamo? Alessandro da Roma. Alessandro da Roma, dai. Che aria tira nella famiglia. Ma com'è che si chiamava quell'altro? Eugenio la figlia, il padre come mica si chiamava? Giovanni da Reggio Calabria. È una famiglia che io sono molto vicino a questa famiglia, devo dirti la verità. Sì, ma magari sono anche molto molto vicino a questa famiglia di Reggio Calabria, di melomani, gente che ama la cultura, gente che ama e che sono incazzati melomani con il volo. E anche un po' mitomani, secondo me, però per carità, va benissimo. Comunque Alessandro, vai. Ciao Bruciani, ma non ciao si arrabbiano, cioè voglio dire. Dimmi, dai, forza. No. Allora, io pensavo che oggi Parenzo, che io credo che sia comunque un uomo di cultura, che segue la musica, l'arte, tutto quanto, avrebbe detto un'altra cosa su quanto riguarda quei tre stronzetti del volo. Cioè, se tu sei il simbolo in quel momento dell'arte, della musica, sei il simbolo della musica italiana che tutti amano e tutti cantano nel mondo, sì. Non ti presenti. Ma adesso il simbolo della musica italiana, non esageriamo. Ma cantano le musiche. Aspetta, Alessandro, aspetta, che aria tira nella famiglia alla Reggio ancora? C'è molta tensione perché se stanno ascoltando la trasmissione, c'è molta sicuramente tensione. No, ma non rispondono. Senta, sono Giovanni, ho chiamato poco fa. Ecco, Giovanni, allora ancora, scusami, fammi capire. Ecco, Giovanni, allora, Giovanni, ha chiamato tua figlia prima, no? Ha chiamato tua figlia, incazzata come una bestia. Mia figlia. Ah, in casa, ma cazzo, sì, ha chiamato. Vivete insieme o no in quella famiglia? È Eugenia, bravo, Eugenia. Sì, ha chiamato. Sì. Eugenia, sì, Eugenia. Ha chiamato, che ha detto? È incazzata come una belva. Dice che con Parenzo gli ha detto di tutti i colori, ha detto gliela puoi sucare a mio padre. A proposito, che vuol dire per spiegarlo, gliela puoi sucare? Chiamavo Mariella Franca. Come? Che era moglie, chi stai chiamando? E la comarca di Ricciarelli. Sì, la comarca di Ricciarelli. Ragazzi, se quello che avviene se non avete il controllo di quello che avviene anche a casa vostra, ma voglio dire, dai, su. Però scusami, Giovanni, scusami un attimo, Giovanni. Franca, zitta. Chi è Franca? La figlia. Scusi. È la moglie, sì, Franca. Prego, scusi intanto. Sì, mia moglie è qua, e nell'armadio non c'è nessuno. Non c'è ci manca pure tua la figlia adesso. Ha chiamato incazzata come una bestia, dicendo ha attaccato Parenzo, ne ha dette veramente di tutti i colori. Ha chiamato incazzata come una bestia. E cosa ha detto? Ha detto non trattate così mio padre, sì. Mio padre è un uomo di cultura, gliela potete sucare. Ma questo per carità, ti faccio sentire, aspetta. Mio padre è un uomo di cultura. Vabbè, aspetta, adesso non è che possiamo fare scusa. Dobbiamo fare cosa ci interessa di risentire quello che ha detto la figlia di questo signore che sicuramente è un melomane e gli vogliamo bene, ma perché è di interesse popolare questa roba? Io quello fagli che non sentire capisco. Al padre e la figlia che ha chiamato. Aspetta. Sì, sentiamo la figlia. Mio padre ha una cultura non indifferente che gliela potete sucare tutti. È tua figlia? Ma non possono dirselo in casa, scusa. Non è tua figlia o no questa? No, era forse in macchina. Ma è tua figlia o no la voce questa qua? Questa voce qua è di tua è figlia? È mia figlia, sì, sì. È tua figlia. Abbiamo accertato non questa cosa. Non potete qua. Telefonarvi tra di tua voi figlia, anziché occupare figlia una trasmissione radiofonica. È una belva, tua non figlia. È una belva, tua figlia. Una belva. Non una belva, perché loro mettevano in dubbio che io conoscessi tutte queste persone no qua. Ma per carità va no ma tu puoi conoscere hai dato del gabinetto a Parenzo e lui io ho risposto, lui certo. Si è incazzato dicendo che forse c'era qualcuno no ma è un gabinetto lo ribadisco questo lo ribadisci va bene volta al stomaco vabbè d'accordo ma tu che ha detto mia figlia per favore ma quello ha detto quello che ti ho fatto ascoltare ha fatto un intervento di 4 minuti risolvetelo. No, ma che quel poco? Lei è logorroica più di me. No, ha parlato. C'è come no? Ha detto è vero, dentro. Io sono stato battezzato alla Ricciarelli. Ha detto che Parenzo è un pezzo di merda. In pratica, uno stronzo ci ha dato delle teste di cazzo, degli stronzi. Ce ne ha detti di tutti i colori. Ce ne ha detti. Guardate. Sì, tante. Loro hanno disprezzato. Mi scusi. Hanno disprezzato Reggio passami Calabria. Tua moglie un attimo passami ecco, tua moglie ci manca secondo. Sì beh certo passami giusto, sono Cruciani passami Franca un attimo Passami Franca. Mia moglie. Eh sì, tua moglie. Te la passo, scusami. Passami Franca, sì. Tutta la famiglia, giustamente a questo punto ormai. Sì. Pronto? Franca. Buonasera, signora. Intanto. Signor Gianni, ma siete così simpatico che ogni pomeriggio dico a mio marito, ci sono, vi chiamo... Sì. Mi chiamo I Monelli. Scusi, sua figlia molto simpatica, però, ma ho capito, ma Eugenia ci ha insultato. Vedi, ha detto che siamo simpatici. Eugenia ci ha insultato. Senso dell'umorismo la signora, Eugenia, a differenza della figlia, la signora grande. Ti faccio sentire quello che ha detto Eugenia prima. Aspetta, signora, ti faccio sentire. Sì, sì. Aspetta, sì. Senti. Mia figlia Maria Eugenia, sì. Maria Eugenia, si è detta anche Eugenia, si aspetta. Aspetta. Io parlo una cultura non indifferente. Che gliela potete succare tutti. Capito, signora? Che vuol dire gliela potete succare tutti? Oh! È morta, che ha fatto? È caduta. Niente. Ah, per carità, speriamo. Lucia, attenta a quello che dice. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La zanzara. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine, però dice chi lo sa già. Mai al mondo verrà la fine. Allora Parenzo, voglio silenzio, sì, assoluto, sì, sì, sì. Silenzio, sì, assoluto, sì. Per tutti i minuti, no, veramente, lo dico sul serio, sì, per tutti i minuti che saranno mai necessari, per tutti i minuti che saranno necessari. Vabbè, cioè, un giorno diretta, analizzeremo però il testo di questa in canzone. Diretta, no, lascia perdere il testo di questa giorno, canzone, ma sono canzoni fenomenali, ottime, sì, sì, sì, stupende. Ho detto con educazione, un giorno faremo anche un CD, sì, insieme, faremo ma analizzeremo con calma la frase mai al mondo. Sì, ma è una frase esoterica. Sì, è esoterica. Abbiamo in collegamento il divino Otelma. Divino, buonasera. Vi salutiamo e benediciamo da Coltina, amatissimi figli, come sempre al lavoro e chini sui gravi e complessi problemi delle cure. Ma che cazzo fa Cortina sto miserabile? Allora, Divino, io ho già detto prima di questo collegamento che io sono molto felice di essere suo amico. Una volta andammo insieme pure a una convegno, festa organizzata dalla signora Meloni. Nonostante quello che dice Parenzo, io mi onoro di essere suo amico. Questo lo devo dire, bisogna dirlo come premessa generale di questa cosa qua. Come premessa generale, forse realizzeremo anche un CD insieme, ma lasciamo, per carità di Dio, lasciamo le cose sospese per adesso. Meglio, le cose. Meglio. Allora, Divino, so che lei ha bisogno di un attimo di, come dire, di solitudine da questo punto di vista, cioè di per spiegarci com'è il rituale del dimagrimento. Ecco, parta, vada pure, Divino. Il rituale del dimagramento armonico è stato celebrato per la prima volta in Italia nel 1989. Dove? In un programma di Antonio Ricci a Canale 5, Audience. Sì. È stato da noi creato utilizzando le tecniche magiche di base. Sì. Ed ha ottenuto risultati eccellenti. Tra l'altro con Audience noi creammo una dozzina di rituali. Sì. Non abbiamo iniziato con questo, ma con quello di taumaturgia, quindi destinato alla guarigione dei malati, che ha avuto anch'esso grandi risultato. Comunque, questo è il rituale per il dimagramento armonico. Dimagramento, non solo a coloro che sono grassi eccessivamente e desiderano dimagrire, ma anche a coloro che non lo sono, grassi, e desiderano non diventarlo mai. Esatto, dunque lei ci può assicurare, scusi Divino, ci può assicurare che seguendo pedissequamente questo rituale, ci mancherebbe. Questo rituale, si perdono tanti chili. Quanti se ne perdono di chili? Allora, ascoltate, noi non abbiamo tempo da perdere. No, avevamo detto con estrema chiarezza, esatto, l'abbiamo detto anche l'altro giorno in Rai 1 quando l'abbiamo fatto, che non avremmo tollerato interferenze, commenti da nessuna parte proveniente. Assolutamente. Quindi o l'immondo pagliaccio viene messo a tacere, o noi chiudiamo la conversazione. È già silente. Mi piace Divino. Per quelli che non parteciperanno al rituale, andate su Rai 1, andate nel podcast. No, Divino, è già silente, non si preoccupi, è già silente, vada. questo rituale è rivolto a coloro che sono a casa, sì? Beh, e questo, perché possa produrre effetto, necessitano tre elementi, quindi sì, il sale grosso, sì, uno, certo, specchio prensile, ovvero da tenere, sì, in mano. Sì, poi? E poi vi diremo, serve una pezzuola o fazzoletto, sì, o nastro di colore bianco per cingere la fronte. Bene. Se avete questi tre elementi potrete partecipare. Molti li hanno già in mano, Divino. Abbiamo annunciato prima la sua presenza, questo, ecco, rituale, per cui molti ce li hanno. Allora, alzatevi in piedi se già non lo siete, ovunque voi siate, sì, posizionate la pezzuola bianca o il fazzoletto o il nastro bianco, sì, attorno alla vostra fronte. Sì, non c'è dubbio. E? Nel palmo della mano sinistra, sì, afferrate lo specchio prensile, nel palmo della destra depositate almeno 3 granuli di sale grosso. 3 granuli, sì. E adesso, se avete fatto tutto questo, sì, col nastro o il fazzoletto avvolto attorno alla fronte, in piedi, ripetiamo, sì, procederete in questa maniera. Come? Ruotate in senso orario, sì, e circolare lo specchio prensile. Ruotatelo lentamente e lentamente, posizionatelo, sì, dinanzi al vostro viso. Sì, beh, certo. Ora, sì, concentrate lo sguardo e la mente in direzione dello specchio. Guardatevi, sì, guardatevi, beh, questa, e ripetete dopo di noi a voce alta, sì, quanto noi diremo. Ripetiamo. Io sono in verità orribile a vedersi. Io sono in verità orribile a vedersi. Nessuno mi ama perché sono grasso. Nessuno mi ama perché sono grasso. Segnate. Io aborro il grasso nauseabondo che mi opprime. Io aborro il grasso nauseabondo che mi opprime. E che pervade ogni mia fibra. E che pervade ogni mia fibra. Trasformandomi in un relitto umano. Trasformandomi in un relitto umano. Ripugnante, squallido essere. Ripugnante, squallido essere. Umanoide derelitto e stracco. Umanoide derelitto e stracco. Da tutti deriso e scartato. Da tutti deriso e scartato. Ricolmo di sudiciume. Beh, questo pensavo. Ricolmo di sudiciume. Grondante, viscido putridume. Grondante, viscido putridume. Miserabile contenitore di grasso. Miserabile contenitore di grasso. Destinato alla putrefazione. Destinato alla putrefazione, bisogna dare anche un tono. Ma di qui in avanti. Sì, ma di qui in avanti. Mi propongo, mi impegno a sradicare il morbo crudele che mi opprime. A sradicare il morbo crudele che mi opprime. Allontanando il cibo superfluo dalla mia bocca. Allontanando il cibo superfluo dalla mia bocca. Io mangerò solo 2 volte al giorno. Io mangerò solo 2 volte al giorno. Lentamente. Lentamente. In quantità modesta. In quantità modesta. Perché non voglio più essere. Un ripugnante grassone. Ma uscire ed uscirò. Dal tunnel oscuro. Per rivedere la luce. E così sarà. Finito? Siamo quasi giunti al termine. Beh, deponete, sì, al suolo, sì, lo specchio prensile. Sì. Dinanzi a voi. Sì. Con la mano destra contenente il sale grosso, sì, cerimoniale. Sì. Scagliatelo dinanzi a voi. Cioè, scagliatelo dinanzi, bisogna scagliare il sale dinanzi, sì, davanti. Scagliate il sale dinanzi a voi. Sì. A questo punto, sì, rialzatevi, il rituale è terminato. è replicabile ad libitum. È replicabile. Pertanto, per cui divino, se scusi, lo desiderate, sì, lo potete, certo, fare anche una volta al giorno, preferibilmente, sì, prima, quando? Di andare a dormire. A dormire. Scusi divino, per riassumere, si riesce a dimagrire in quanti giorni e quanti chili con questa formula che mi pare abbastanza semplice, no? Cioè, due pasti al giorno, mangiare poco, mi sembra, no o no? Quello è certamente un elemento. E ma qual è l'elemento? L'altro è il rituale. Perché certo, se ci mancherebbe altro. Il soggetto partecipa convintamente al rito, sì, che può essere esperito anche in solitudine, quindi se siete soli a casa, nella vostra stanza, anzi per certi versi è meglio, posizionati davanti ad uno specchio, se non avete quello prensile, potete fare il rituale. Se Se il rituale è fatto bene, se è fatto una bene, volta al giorno i risultati indubbiamente. Ecco, quanto si riesce a dimagrire? Scusi, divino. Ma certamente, se non ci sono interferenze, se voi procedete con la necessaria serietà che richiede un rito magico. A lei quante persone? È un consiglio di mangiare due volte al giorno. Smettiamola di dire fregnacce. Aspetti un attimo. Scusi, quante persone ha fatto dimagrire con questo rituale, divino? Ma che cazzo di fine hai fatto? Fermo. Ma che è successo? Oh. Fermo. Ma che è successo? Oh, madonna. Li avete visti sulle rive del fiume. Il divino Telma. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Scusi, divino? Sì. Ma non mi può lasciare così, scusi, divino. Vi avevamo avvertito, non desideriamo. Ma no, ma non c'è nulla. Adesso c'è un commento finale, però non è che abbiamo fatto il rito tutto bene, tutto perfetto. No, l'individuo ha interferito danneggiando così anche coloro che hanno partecipato. Certo, naturalmente non si va a messa e a metà della messa. Cioè. Sì, ho danneggiato, non ha fatto nulla. Ma quale messa? Ma non bestemmi in chiesa? Ma quale messa? Ma non bestemmi? Ma è sacra, minchiate che dice, mica sacra. Che voi pagate anche, buttateli nel cesto. Certo. Non hanno nulla a che fare con senti noi, mago, con gli eletti, il mago. Con il pubblico che merita rispetto e che voi non rispettate. Ma cosa dice il mago? Divino. Ma no, ma come andare a fare il culo? Divino. Tu hai mai sentito un mago a parlare con questo ragazzo? Ma non è un mago, è divino, scusa. No, un mago, hai mai sentito un mago? Divino. Harry Potter, l'hai mai sentito parlare in questo modo, no? Divino, cazzo. Ma se la puttana dalle tofane. Comunque a Cortina il divino, comunque voglio... sì, che va... ma no, comunque che vada a quel paese, perché tutto sto rituale che è durato 4 minuti, che mi sono dovuto assorbire, per poi sentirsi dire di mangiare soltanto due volte al giorno e masticare lentamente. Permetti che vada ai matti quando un idiota vestito come un signore uscito da un film degli anni 40 con tutte quelle cose, sembra un egiziano di Ben-Hur, ti dice di metterti anche... col sale in mano. No, ma però ha detto miei, anche dai, di tirare oltre a mangiare due volte al giorno e a mangiare lentamente, cioè ha detto anche di tirare il sale, bisogna dire la verità. Tirare il sale, capito? Cioè, ma dai ragazzi, ma come si fa? È un impunito. Vabbè ragazzi, dai, che dobbiamo... Enrico da Mentone, dai, Mentone vicino al confine... Con la Svizzera, no? No, la Francia, dai, scusa, veramente in geografia sei nullo, dai. Enrico, vai. Sì, con la Francia. Pronto? Allora, io volevo intervenire relativamente a quel capo dei vigili di Biassono. Bravo, bravo. E da SS, no? Sì. Allora, ieri sera hanno ritrasmesso... il famosissimo film I Blues Brothers, no? I Blues Brothers, allora? Esatto, sì. Allora lì c'è una Blues scena. Brothers, per essere esatti, adesso, no? Un film di John Landis. Vabbè, allora? Un gruppo di nazisti americani, tutti vestiti con la svastica sul braccio. No? Sì, ma che vuoi dire con questo, Enrico? Non ho capito. Che là c'è un'organizzazione che risale alle SS. Vabbè, ma questo lo sappiamo, dunque? Tutti i rituali con tutte queste cose e possono manifestare davanti alla Casa Bianca. Ora noi ci incazziamo perché c'è un capo dei vigili che c'ha la divisa da SS. Insomma, no, no, attenzione. Questo signor, ma uno può fare quello che vuole nella vita. Cioè, io figuriamoci, sono a favore dell'esistenza del Ku Klux Klan. Penso che ci sia la libertà anche di dire le cose più estreme. Poi c'è la legge. Se la legge dice che puoi andare in tribunale, va benissimo. Il punto è un altro. Questo signore è il capo dei vigili, dunque ha un ruolo un po' istituzionale. Il capo dei vigili di un piccolo paese. E ha detto anche, che se ci fossero questi signori, una compagnia di questi signori dell'SS, sarebbe molto meglio. Cioè, non si è limitato solamente a vestirsi per gioco. Ecco, gli Stati Uniti, perché là... Là che cosa? Cioè... Team, servizi di segreteria. Vabbè, dai. Allora, Enrico, non ho capito che cosa vuoi. C'è la libertà di vestirsi come un SS? Sì, c'è la libertà, per me ci dovrebbe essere. Dopodiché, se sei il capo dei vigili e dici anche che ci vorrebbe un battaglione di SS, appunto, per mettere la cosa a posto, sei un coglione, punto. Soprattutto perché poi uno dice no, si scusa, no, ha si fatto cerca una di correre. Battuta di cattivissimo gusto, primo. Gennaro, secondo... Napoli, vai, Gennaro. Ma secondo... la famiglia della Reggio Calabria c'è ancora? Eccomi, sono qua. Ancora sì, Gennaro. Vabbè, io non lo so, io sono estasiato, ma dove li trovate? Cioè, ad esempio quel Luciano, ma dico io. Ma Luciano chi è? Ah, quello là. Luciano è quello agli arresti domiciliari che ha 52 anni, vuole uscire a fare lo gigolo. Ma dico io. Ma se l'uomo medio italiano dice che non ci va, ma le strade sono piene di prostitute dappertutto. Ma stanno aspettando a Luciano che esce a carcere a 52 anni e lo pagano pure. Io non lo so. Vabbè, Gennaro, che ti devo dire? Se quello pensa di voler fare, che vuole fare il gigolò quando esce dagli arresti domiciliari. Vabbè, io voglio fare il consulente di Trump a questo punto. Cioè, non lo so. Vabbè, ma è più facile fare gigolò, tentare di fare gigolò che il consulente di Trump. Sì, quello dubbio. È leggermente più facile. Ma, insomma. Beh, sì, uno ci può provare molto più facilmente. Cioè, nel senso, anche solo mettendo un annuncio. Sì, vabbè, quello infatti, ma voglio dire, questo esce, ma tutti gli uomini vogliono fare questo, cioè io lo so, ma io vorrei capire. Vabbè, Gennaro, Marco da Firenze, vai. Marco da Firenze, Marco, dimmi. Pronto? Sì. Dimmi. Buonasera, niente, ho telefonato perché Parenzo l'altra sera non c'eravamo, eravamo bellamente in vacanza. Allora diciamo correttamente, tempo fa, no? L'ascolto sempre a Zanzara, sì, tempo sì. fa. Allora? Ma ha fatto una bocca al vaso, perché quando ha trattato male la vecchietta... Ancora questa storia. Vabbè, però no, c'è da dire che lui difende gli immigrati, difende le persone più deboli, difende... E poi... ha dimostrato proprio di essere un paraulo assoluto. Senti, perché amico mio, abbiamo già dato da questo punto di vista. Però se volete, abbiamo già chiesto scusa, se volete, già fatto tutto. Possiamo anche riaprire un nuovo dibattito. Ci sono questi indipendentisti che ci rompono i coglioni, ci vogliono denunciare. Benissimo. Gli avvocati ci vogliono portare in tribunale. Che paura. Prendendo le parti di questi vecchietti che loro li stanno sfruttando. Loro stanno sfruttando questi qua. Li stanno sfruttando per i loro scopi da indipendentisti veneti e li stanno sfruttando perché pensano di agire a nome loro, capito? Ci vogliono portare in tribunale, cancellare la Zanzara in nome dei due vecchietti. Abbiamo chiesto scusa, abbiamo parlato con la signora Rosina. Punto e basta. Ma se volete romperci ancora i coglioni, per carità, siamo qui, non c'è nessun problema. Chiave gato e similari. Siamo qui. Siamo qui, non c'è nessun problema, non abbiamo paura né di voi né dei vostri avvocati. Semplicemente ce ne sbattiamo chiudi i coglioni. Chiudi tutta la baracca. Va. Ciao. Io padre ha una cultura non indifferente che gliela potete succare tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare.